zusammen fassung vorliegt, die ja sehr verständlich ist. Und wenn es hinterher allzu viele Verständnislücken gibt, dann kann man immer noch versuchen, zusammenfassend das eine oder andere zu erklären. Außerdem müssten wir vielleicht dann dazu übergehen, eine etwas andere Sitzordnung einzuführen, dass wir immer neben jemanden, der nicht Italienisch versteht, jemanden setzen, die oder der Italienisch kann. Also Radetzkys Erfahrung von der Grammatica Viva in abgemilderter Form. Und dann könnte eben die ein oder andere oder der ein oder andere schon mal jemandem etwas zuflüstern. Es ist einfach der Versuch, ohne die langweilige und zeitraubende Übersetzung auszukommen. Ob er gelingt, wird sich nach diesem Vortrag zeigen. Allora cerchiamo di evitare le traduzioni, sperando che, soprattutto in questo caso, qui dove c'è questo resume qui di Carlo Ghisalberti, forse anche quelli che non sanno bene l'italiano riescono a seguire la sua relazione. Grazie. Ringrazio gli amici dell'Istituto Storico, il professore Vandruska, il professor Prodi, il professor Corsini, l'amico Lill, coloro che mi hanno invitato in questo bell'ambiente, e li ringrazio non solo per l'occasione offertami di tornare a Trento, ma anche per l'occasione di meditare intorno a cose che io modestamente ho cercato qualche volta di studiare e che vorrei verificare al contatto con un gruppo di studiosi, soprattutto tedeschi, verificare nella sostanza dei risultati che con ulteriori indagini, con ulteriori ricerche si possono ottenere su questo argomento. Grazie quindi dell'invito che mi è stato fatto. Noi abbiamo da ringraziare te che sei venuto. Basta. Uno dei grandi dibattiti storiografici che si sono svolti in Italia nell'ultimo ventennio e che ha avuto accentuazioni polemiche per l'importanza del contenuto ideologico politico e che ha avuto anche, diciamo, una rilevanza notevole per la determinazione dello stesso concetto di risorgimento nazionale italiano, è stato quello sul senso che Hegel ha dato del concetto di rivoluzione, del termine di rivoluzione. E diciamo subito che la cosa ha avuto per l'Italia una importanza molto notevole, in quanto uno dei gruppi culturali, uno dei gruppi politici più attrezzati sul piano ideologico, sul piano teoretico del nostro risorgimento nazionale, il gruppo degli hegeliani di Napoli, come si dicevano, cioè quel gruppo di politici e di pensatori napoletani che si sono formati nella lettura di Hegel, hanno impegnato loro stessi all'indomani della rivoluzione del 48 sul determinare quello che era il senso da dare alla parola rivoluzione. Oggi, che siamo qui riuniti per confrontarci intorno al concetto di rivoluzione, allo svolgimento delle due rivoluzioni o della storia d'Europa nelle due rivoluzioni, esattamente la storia d'Italia e della Germania tra le due rivoluzioni, io credo che sia opportuno vedere anzitutto che cosa i contemporanei e il più grande dei contemporanei, Hegel, e coloro che ne seguivano l'insegnamento hanno chiamato con rivoluzione. Non c'è dubbio che per un teorico dello Stato e per tutti coloro che hanno seguito le sue dottrine, qual era Hegel, e per coloro che hanno seguito le sue dottrine, rivoluzione si intende come rovesciamento di una legalità, di un assetto sociale fondato su una serie di norme osservate per costanza di tradizione storica per secoli o per decenni, e al tempo stesso come sostituzione a quella legalità, o attraverso la creazione di nuove norme, o attraverso la trasformazione di quelle esistenti, di un'altra legalità. Questo è il concetto che Hegel ha dato di rivoluzione. Questo è il concetto che nella rivista Il Nazionale, che si pubblicò a Napoli prima delle giornate del maggio del 1848, si diede del concetto di rivoluzione. E io direi che è dovere degli storici rimanere legati a questo concetto, Non possiamo attribuire alla parola rivoluzione caratteristiche che i contemporanei non gli diedero. E pertanto, quando noi parliamo di rivoluzione in riferimento alle istituzioni, in riferimento alla situazione politica, noi dobbiamo riferirci esattamente al senso che il termine rivoluzione ha avuto per i contemporanei che vissero quella rivoluzione. Adesso, in questo nostro seminario, noi vogliamo, per così dire, confrontarci sulle due esperienze parallele delle rivoluzioni in Italia e delle rivoluzioni in Germania, o meglio sulle conseguenze che le rivoluzioni dell'89 e le rivoluzioni del 48 hanno avuto sulla storia istituzionale e ideologica dell'Italia e sulla storia istituzionale ed ideologica della Germania. Primo punto, ogni rivoluzione, e qui io adesso fatalmente mi riferisco alla prima, a quella del 1789, avviene sulla base, diciamo così, di due elementi essenziali. Primo, la coscienza che un certo ordine di cose, che una certa legalità deve essere abbattuta, perché non funziona più, non va più bene, non è più gradita. Secondo, la previsione che un'altra legalità deve essere sostituita a quella che va abbattuta. Ovvero, vi è un momento di contestazione e di desiderio di distruzione, vi è un momento di ricostruzione o di previsione di una futura legalità. Da questo angolo visuale, da questo punto di vista, il momento della progettazione di una legalità è estremamente importante, in quanto serve a delimitare i limiti istituzionali, gli obiettivi normativi, i risultati politici che si vogliono ottenere con la rivoluzione. Il discorso ci porta quindi immediatamente alla situazione pre-rivoluzionaria in Italia e in Germania. Mi si è concesso di fare un discorso antistorico a questo punto, di fare un discorso antistorico, un discorso di parallelo. Io parto dal principio che è stato espresso qui preventivamente dall'amico Corsini e dall'amico Lille, che i due paesi, ovvero l'Italia e la Germania, hanno rappresentato, hanno vissuto esperienze storiche diverse, hanno vissuto esperienze storiche difficilmente comparabili. Ciò nonostante, per espediente di economia mentale mia, per il desiderio di essere semplice, per il desiderio di trovare qualche cosa da dire di nuovo, voglio qualche volta addentrarmi in un paragone. E allora il mio pensiero va all'illuminismo tedesco e all'illuminismo italiano. E devo dire, e spero che su questo punto la discussione allarghi i nostri orizzonti, che vi è una profonda differenza tra l'illuminismo tedesco e l'illuminismo italiano per quello che riguarda la problematica giuridico-politica, per quello che riguarda la problematica istituzionale. Diciamo subito che l'illuminismo italiano è, da un certo punto di vista, un po' più subalterno, è, da un certo punto di vista, un po' più recettivo di idee elaborate altrove. Franco Venturi, in una relazione stupenda del 1954, il nostro grande studioso del Settecento, che certamente gli amici tedeschi conoscono benissimo, Franco Venturi, ha sostenuto che nel Settecento si è attuata una circolazione delle idee, vale a dire ha sostenuto come certe determinate idee circolarono al di là dei confini e giunsero anche in Italia e furono quasi rielaborate in Italia. Ora la tesi del Venturi è esatta, però se noi scendiamo dal problema ideologico più generale al problema contenutistico delle istituzioni, delle dottrine ispiratrici delle istituzioni, noi dobbiamo dire che l'Italia è più subalterna, è più dipendente dall'estero e più esattamente dalla Francia di quanto la Germania non lo sia stata. Un complesso di circostanze, probabilmente la comune acculturazione dei ceti intellettuali italiani e francesi, la maggiore quantità di scambi intellettuali, hanno fatto sì che nel nostro paese il Settecento, dal punto di vista della politica, dal punto di vista delle istituzioni, rifletta fondamentalmente moduli elaborati altrove. Non a caso, ricerche recenti compiute sul pensiero politico inglese e francese e sulla incidenza del pensiero politico inglese e francese in Italia, mi riferisco al libro molto bello della Berselli Ambri sul Montesquieu e al libro della Rota Ghibaudi sul Rousseau e la sua influenza in Italia, libro che ha allargato e potenziato enormemente le nostre conoscenze sulle edizioni di Rousseau diffuse in Italia, hanno dimostrato gli studi recenti come in Italia progressivamente, durante tutto l'arco del Settecento e segnatamente nell'ultima fase del Settecento, la cultura politica francese è stata dominante. Cosa voglio dire con questo? Che si è realizzata, per così dire, progressivamente una certa egemonia culturale dei francesi che ha operato nella determinazione di modelli di comportamento politico, nella definizione di traguardi istituzionali da raggiungere e che ha portato in pratica il nostro paese a una dipendenza ideologica dal punto di vista politico, ancor prima che la rivoluzione giungesse alle nostre frontiere, dalla Francia. Questo tipo di discorso, che è un discorso che ha una sua efficacia dal punto di vista della spiegazione di ciò che è successo successivamente, per così dire, e che spiega il fondamento del futuro costituzionalismo italiano e il fondamento del futuro sviluppo delle istituzioni pubbliche italiane, è un discorso che io direi non possa essere fatto per la Germania in forma analoga. Non voglio dire con questo che nel mondo culturale tedesco non vi fosse una conoscenza di quanto si elaborava in Francia. Non voglio dire con questo che nel mondo culturale tedesco non si avesse precisa consapevolezza di quello che era il valore della nuova cultura politica francese. Voglio dire soltanto che lo stesso spessore culturale dell'illuminismo tedesco appare più autoctono, più legato alla tradizione della Germania, più legato alla consapevolezza di certi valori propri della società tedesca, alla consapevolezza di certe realtà istituzionali della Germania, della società tedesca. Questo a me sembra un punto fondamentale che può spiegare molte circostanze del successivo sviluppo rivoluzionario in Italia e in Germania. Vuoi che vada avanti o vuoi dire due parole? Ja, Herr Ghisalberti fragt, ob das nun wirklich allgemein verstanden worden ist. Ich wäre sehr dankbar, wenn Sie so wie vorhin. No, dico se vuoi. Ja. Wenn es möglich ist, wäre ich persönlich sehr dankbar. Dibattito. Ja, dann vielleicht, allora dico due parole. Sì, ecco, tra due e tre ne devi dire. Ausgangspunkt ist der Hegelsche Revolutionsbegriff. Der Hegelsche Revolutionsbegriff, so wie er auch von den zeitgenössischen italienischen Hegelianern interpretiert worden ist, wonach eben die Revolution bezeichnet wird als erstens der Umsturz einer Legalität und zweitens seine Ersetzung durch eine neue Legalität. Und Ghisalberti sagt, so haben die Zeitgenossen von der Revolution gesprochen und deswegen können wir auch nur diesen Revolutionsbegriff als Historiker legitim verwenden. Zweitens, er sagt, es geht hier darum, Konsequenzen der beiden Revolutionen von 1789 und von 1848 für die beiden Länder aufzuweisen. Und da sagt er eben, Voraussetzung einer solchen Revolution ist das Bewusstsein, dass eine bestimmte Ordnung nicht mehr ausreicht und das Bewusstsein, dass eine neue Ordnung entstehen muss mit den Folgen, dass es eine Phase der Destruktion und eine Phase des Wiederaufbaus in solchen Revolutionen gibt. Und er fragt dann nach der vorrevolutionären Situation in beiden Ländern und stellt da einen großen Unterschied zwischen Italien und Deutschland fest, insofern als die italienische Aufklärung sehr viel abhängiger von Frankreich gewesen sei, als, wie er sagt, die deutsche Aufklärung, welche mehr aus eigenen Modellen und aus der eigenen politischen Tradition arbeitete, dass überhaupt die politische Kultur Frankreichs damals das geistige Leben Italiens sehr stark geprägt hätte. Grazie. Io voglio sottolineare un punto, che cioè nella cultura pre-rivoluzionaria tedesca, al di là, oltre le frequenti esaltazioni della libertà elvetica, oltre la notevole eccitazione e compartecipazione anche passionale dimostrata per esempio per la rivoluzione americana e per la indipendenza delle colonie già inglesi dell'America, al di là anche delle polemiche contro il dispotismo eccessivo dei principi, vi è una sostanziale visione gradualistica e riformistica più accentuata che in Italia. Cioè, direi che la cultura illuministica tedesca rispetto a quella italiana sembra maggiormente legata ad una visione più inerente alla tradizione specifica della Germania, quale si era venuta configurando, più legata alla sostanziale struttura dei rapporti di potere in Germania. La cameralistica, l'idea dello Stato di polizia, le esperienze che si sono vissute di progressivo rafforzamento dello Stato, della creazione di strutture moderne, hanno fatto sì che vi è una maggiore fiducia, diciamo, nelle concezioni gradualistiche e riformatrici di quanto non ci sia in Italia. Concezioni che per esempio hanno, se noi prendiamo il berlinische Monatsschrift del marzo 85, hanno delle espressioni di estrema chiarezza. Il principe dovrebbe abituare gradualmente il popolo a partecipare agli affari pubblici e dovrebbe egli stesso cercare di formare quelle persone che siano capaci come rappresentanti di procurargli il benessere. Cioè voglio dire questo, questa fiducia nei principi che in Italia ad un determinato momento verrà meno, in Germania continuerà maggiormente, il che vuol dire che aveva un maggiore spessore la consapevolezza di un accordo tra le monarchie o certe monarchie e i propri sudditi. E infatti, con lo scoppio della Rivoluzione francese, mentre l'opinione colta italiana tende, per così dire, dopo un iniziale momento di perplessità, a distaccarsi dalle posizioni che diventano maggiormente conservatrici o reazionarie dei sovrani, in Germania l'impatto con le notizie del terrore, l'impatto con la notizia del regicidio, la stessa vicenda della guerra che porterà appunto col 92 la battaglia di Valmy, in Germania la mia impressione è che questa reazione antifrancese e quindi antirivoluzionaria abbia un significato di una, non dico totale, ma di un maggior distacco da quella che è l'ideologia della rivoluzione quale si viene configurando e la realtà tedesca, ciò che in Italia invece non è. Gli studi del Grab sul giacobinismo tedesco sono studi che forse vanno un po' ridimensionati per certi aspetti, però sono studi che ci hanno messo in luce, per così dire, il carattere un po' isolato nel contesto della realtà tedesca, del giacobinismo tedesco, al paragone di quello italiano. Non voglio dire che la classe politica giacobina italiana non fosse isolata, voglio dire soltanto che la classe politica giacobina italiana riesce indubbiamente, per le circostanze in cui viene a operare, a trasformare le strutture istituzionali del nostro paese in un triennio, ciò che invece in Germania non si riesce a operare, non soltanto perché l'invasione francese è più limitata, ma anche, forse soprattutto, perché vi è qualche forza della tradizione tedesca, vi è qualche aspetto del mondo germanico che rifiuta, diciamo, che rifiuta questo primo approccio. Indubbiamente la Germania ha avuto una grande delusione, per così dire, anche nelle forze filorivoluzionarie. Il dibattito che avviene in Francia all'epoca della creazione delle repubbliche sorelle, Repubblica Elvetica, Repubblica Batava, le diverse repubbliche italiane con le relative costituzioni, che avviene in Francia sul problema della riva del Reno, della riva sinistra del Reno, dibattito che ha uno svolgimento indubbiamente tra due alternative: o dipartimentalizzare annettendo alla Francia la riva sinistra del Reno, o creare la Repubblica Cisrenana, e che termina, come è noto, con la estroflessione, diciamo così, di Hoche dalla scena politica e con l'annessione totale alla Francia, diciamo, della Repubblica, del Dipartimenti Renani. È un primo shock estremamente forte per la nazione tedesca, è un grosso shock. Il direttorio era incerto tra la Repubblica sorella da creare sul Reno o la dottrina dei confini naturali, e sceglie la dottrina dei confini naturali, e questo è un grossissimo shock per l'opinione pubblica tedesca, e questo è uno dei limiti, diciamo, che costituisce subito un ostacolo alla penetrazione ulteriore del giacobinismo in Germania. Chiedo scusa. Er betont, dass in Deutschland in den 1760er, 70er Jahren, 80er Jahren es sehr viel deutlichere Sympathiebezeugungen gibt für eine schrittweise reformistische Erneuerung, dass also offenbar die Kraft der eigenen staatlichen Traditionen stärker war, dass eben auch ein großer Teil der Publizistik, vorbereitet durch Kameralistik und Polizeiwissenschaft, mehr Vertrauen hatte auf den Reformismus der Fürsten, und dass man eben schon damals auf Kompromisse zwischen Fürsten und Gesellschaft hoffte, dass dagegen die italienische gebildete Gesellschaft sich kurz nach kurzem Zögern, nach Ausbruch der Revolution, von den Fürsten, von den Monarchien distanziert, die Fürsten ablehnt, und dass also sowohl die vorrevolutionäre wie die unmittelbar postrevolutionäre Situation in beiden Ländern verschieden wurde. Verweis auf die Studien von Grab, welche deutlich erwiesen hätten, dass die deutschen Jakobiner sich in einer sehr isolierten Situation befanden. Isoliert waren die italienischen Jakobiner auch, aber es ist ihnen gelungen, innerhalb von 3 Jahren die Strukturen, die politischen Strukturen Italiens zu verändern. Zum Schluss Hinweis darauf, dass die unterschiedliche Reaktion nicht nur unterschiedlich vorbereitet war in den Mentalitäten, sondern dass sie auch mit verursacht worden ist durch das unterschiedliche Vorgehen Frankreichs, dass gerade die Totalannexion des linken Rheinufers anstatt einer Schwesterrepublik, die Totalannexion, dass die einen nationalen Schock in Deutschland ausgelöst hätte und die ohnehin reservierte Haltung gegenüber Frankreich noch verstärkt hätte. Posso? In questo periodo della storia rivoluzionaria molti problemi sono stati indubbiamente affrontati nella pubblicistica tedesca. Ultimamente ho avuto occasione di rivedermi alcuni studi francesi recentissimi che hanno potuto mettere a fuoco, perché in Francia questo problema è molto studiato oggi, che hanno potuto mettere a fuoco quella che è la concreta incidenza del pensiero, dell'ideologia e delle istituzioni rivoluzionarie sulla Germania. Per esempio, vi è quello studio del Finck, des privilèges nobiliaires aux privilèges bourgeois, le débat sur l'égalité et sur son écho en Allemagne. Il Finck arriva fino al 92, 1792, e nello studio del Finck noi vediamo in effetti come in tutta la prima fase della rivoluzione l'ideologia che questa porta ha un seguito fortissimo. Ancora, lo studio di Adler Bress su Sieyès et le monde allemand, pubblicato nel 77, anch'esso mette in luce in forma molto chiara questa idea della unità fondamentale della nazione e come questa idea venga recepita in certi circoli particolarmente avanzati. Di più, Noi vediamo come nella parte della Germania annessa all'epoca del direttorio, o anzi annessa all'epoca della prima fase della rivoluzione fino al direttorio, il dibattito segua certe linee di sviluppo del dibattito politico rivoluzionario. Abbiamo quello studio di Dufresne, Tendance Girondine et Tendance Montagnard chez les Jacobins de la rive gauche du Rhin. In quegli atti del colloquio su Giacobini e Montagnardi che si è svolto nel 1980, quindi è recentissimo, diciamo. Da che si vede che in tutta la prima fase della rivoluzione l'incidenza ideologica è grossissima. Però, il dramma, secondo me, iniziale, il trauma che colpisce i patrioti tedeschi è questo della rive gauche, della riva sinistra del Reno, e questo determina un mutamento di approccio, perlomeno un isolamento dei filo francesi in un determinato momento. Non a caso sono gli anni nei quali avviene la diffusione di un certo pensiero controrivoluzionario, di un alto pensiero controrivoluzionario, la diffusione del pensiero di Burke in Germania da parte di Brandes o da parte dell'influenza che ha avuto sul primo Rechberg, è la prova evidente, secondo me, che il terreno nel ceto intellettuale tedesco è fertile per recepire qualche ideologia, diciamo così, sulla possibilità di creare un'alternativa politica a quella che è l'avanzata della rivoluzione francese. Il discorso diventa differente naturalmente negli stessi anni per l'Italia, non soltanto perché l'Italia sente meno il problema dei limites naturels, ovvero delle annessioni francesi della Nizza, della Savoia, che sono compiute in questa fase prima della rivoluzione, ma perché in Italia l'accordo tra principi e classi colte è rotto in questi anni, si viene rompendo, mentre in Germania sembra quasi che abbia di nuovo per un momento un soprassalto questo accordo, in Italia si rompe, e sul disaccordo tra principi e classi colte noi abbiamo la fortuna della rivoluzione francese in Italia, in quanto la Francia si palesa come unica alternativa politica valida. Quando io ho detto all'inizio che la cultura politica dell'Italia tardo-illuministica è dipendente dalla Francia, ho detto che questo è uno degli aspetti, una delle chiavi che ci permettono di spiegare il successo della rivoluzione nel nostro paese. Secondo me l'idea che l'esperienza costituzionale debba mutuare quella francese o deve modellarsi su quella francese è già precedente alla conquista. Nel 1794, ad esempio, noi abbiamo una serie di congiure giacobine in Italia, a Bologna e a Napoli, che vogliono giungere alla formazione di costituzioni di modello totalmente simile a quella che è in vigore in Francia. E quindi quando l'Armée d'Italie arriva nel nostro paese, l'esperienza si realizza immediatamente. Non è che ci siano grandi resistenze da questo punto di vista. Nella corrispondenza dell'Empereur, che allora era soltanto generale en chef dell'Armée d'Italie, comandante en chef dell'Armée d'Italie, vi è una famosa lettera di Bonaparte al direttorio, nella quale Bonaparte dice che a Bologna e in genere nell'Italia conquistata ha trovato fondamentalmente tre partiti: i partigiani dell'antico regime, che sono in via di sconfitta, i favorevoli a un municipalismo più o meno accentuato, ne fa l'esperienza a Bologna lui, e i partigiani di un regime democratico, ovvero della Costituzione francese. E i partigiani di un regime democratico, ovvero della Costituzione francese, in Italia in quel momento sono la grande maggioranza di coloro che contano, di coloro che fanno politica o ragionano in termini politici. Questo spiega perché l'intera penisola, tra il 1796 e il 1799, sotto l'impatto, sotto l'avanzata delle forze armate della Francia, accetta ordinamenti, o subisce, o non contesta per il momento, ordinamenti di marca francese. Der Hauptgedanke von vorher wird zunächst noch einmal ausgeführt. In der ersten revolutionären Periode sind in der deutschen Publizistik alle von Frankreich gestellten Probleme aufgegriffen und diskutiert worden. In dem Zusammenhang verweist er gerade auf einige neuere französische Forschungen, die diesem Thema nachgegangen sind. Man sieht, dass die Revolution, dass die revolutionäre Ideologie ein Gefolge, also ein Publikum in Deutschland hat. Auch die Idee der nationalen Einheit wird aufgenommen. Jedoch, so wiederholt er, das Drama des linken Rheinufers hätte dafür gesorgt, dass die französischen Freunde völlig isoliert worden seien und dass nun die Gegenströmung etwa mit der Verbreitung der Ideen von Burke begonnen hätte, woran man sehe, dass das Terrain in Deutschland bereit gewesen sei für eine kontrrevolutionäre, für eine restaurative Denkweise. Ganz anders die Situation, wie eingangs schon bemerkt, in Italien, und zwar deswegen, weil der Akkord, weil der Zusammenhalt, weil der Konsens zwischen Fürsten und gebildeten Klassen nicht mehr bestanden hätte, weil dieser Kompromiss längst zerbrochen gewesen sei und weil Frankreich sich eben als die einzige gültige Alternative vorgestellt hätte. Hier sei das Terrain für die revolutionäre Veränderung vorbereitet gewesen. Die Ideen seien schon verbreitet gewesen, jakobinische Aufstandsversuche längst vor der Revolution. Das heißt, die französische Armee habe nur Commons brauchen, um das, was von manchen erhofft worden sei und vorgedacht worden sei, zu realisieren. Bonaparte hat in einem Brief an das Direktorium geschrieben, dass er in Bologna drei Parteien angefunden hätte, die Vertreter des Ancien Regime, die jedoch ohne starke Bedeutung seien, dann die Municipalisti, die also eine ganz nur städtisch organisiertes eigenes Gemeinwesen aufbauen, und eben die Parteigänger des französischen Regimes. Und er sagt, weil die Parteigänger des französischen Regimes so zahlreich und so stark waren, weil sie vor allen Dingen Intellektuellen waren, deswegen war es möglich, dass zwischen 1796 und 1798 in ganz Italien Verfassungen und Strukturen, staatliche Strukturen nach französischem Vorbild eingeführt wurden. Grazie. Vi sono tre problemi, tre aspetti che devono essere sottolineati di questa fase della conquista francese della penisola italiana, aspetti che resteranno fondamentali anche nel periodo immediatamente successivo, con la riconquista che avviene dopo la seconda coalizione, la battaglia di Marengo e l'egemonia totale napoleonica sulla penisola. Primo di questi aspetti, l'idea di Costituzione. Non c'è dubbio che durante il periodo dell'egemonia francese l'Italia si abitua a pensare in termini di Costituzione sulla base dei modelli di organizzazione costituzionale francese. È il prodotto dell'egemonia francese, è possibile, però resta il fatto che non esistono più dibattiti in alternativa. In tutta la penisola italiana si sostiene soltanto l'opportunità di seguire modelli costituzionali di marca francese. L'antica discussione che si era fatta nel preilluminismo e nella prima fase nel pieno illuminismo sul governo misto, sullo stato di stati, sulla costituzione inglese soprattutto, è completamente caduta. Non se ne parla più, non si accetta più l'immagine di una costituzione che non sia quella sulla sovranità nazionale, sulla rappresentanza di marca francese. Questo è il primo punto. Secondo punto, l'Italia accetta completamente il modello di organizzazione amministrativa francese. Qualche volta c'è qualche rielaborazione originale nei compiti di certi funzionari, delle prefetture e via dicendo, però resta il fatto che nel nostro paese l'accentramento, quel governo centralizzato per cui il territorio dipende dal vertice, per cui la periferia di uno Stato dipende dalla capitale, per cui gli organi dirigenti dello Stato hanno i loro esecutori immediati in periferia, entra completamente con estrema facilità in tutti gli stati napoleonidi della penisola italiana. Terzo punto, che anche questo va tenuto presente, è la stessa concezione dello Stato. Una opera classica sulla natura e sul concetto di Stato, in un'opera classica, il Gierke fece un parallelo sostenendo che nei paesi di tradizione germanica la società politica si costruisce dal basso verso l'alto. Nei paesi di tradizione latina la società politica, ovvero lo Stato, si costruisce dall'alto verso il basso. Questo discorso è un discorso che il Gierke ha espresso in termini mirabili con un'intuizione validissima, è un discorso totalmente valido e che si realizza pienamente per l'Italia tra il 700 e l'800. Voglio dire questo, l'Italia accetta l'idea che la costruzione dell'apparato pubblico, che la costruzione dell'organizzazione statuale, che il senso stesso che si deve dare a questa costruzione sia un senso verticistico, di un apparato che scende dall'alto in basso, di una costruzione piramidale, di un potere che si irradia sulla sua base. E questo direi che urta, si oppone perfettamente a quello che invece è avvenuto nel mondo tedesco, dove un'immagine simile non è che sia recepita tanto facilmente. Noi tutti sappiamo quello che è stata la difficoltà profonda che ha incontrato la Casa d'Austria per cercare di giungere a una più forte centralizzazione del suo potere. Sappiamo anche come nella stessa struttura politica prussiana, il modello prussiano, che era indubbiamente un modello di una certa centralizzazione, abbia dovuto gradualmente rispettare certe soluzioni particolaristiche o pluralistiche fondate sulla tradizione storica del popolo tedesco. Questo è un problema che continua a interessare evidentemente l'intero periodo napoleonico. Uno scritto famoso di Hegel del 1802 è il momento in cui Hegel, scritto sul quale evidentemente si può immaginare quanto è stato detto, pensato e studiato da parte della letteratura italiana. Uno scritto famoso del 1802 di Hegel, Verfassung Deutschland, metteva in luce come la debolezza strutturale della Germania derivasse proprio dal policentrismo, dalla pluralità di centri di potere, dall'uso, qualche volta anche dell'abuso, di poteri pubblici da parte di coloro che li detenevano quasi fosse una proprietà privata e non un atto di sovranità, un diritto di sovranità. Il che vuol dire che ancora nel 1802, all'indomani cioè di oltre un decennio dalla Rivoluzione francese, mentre il mondo conquistato di tipo latino, diciamo, aveva ormai recepito completamente l'immagine di una struttura centralizzata, il mondo germanico considerava, dico la testimonianza di Hegel, evidentemente considerava questa struttura centralizzata qualcosa di profondamente diverso. Il pensiero di Hegel è un pensiero autorevole, ma Hegel, diciamo, porta avanti un discorso che rappresenta un discorso minoritario in quel contesto della Germania di quel momento. Chiedo scusa, puoi dire due parole? Yeah. Drei Probleme oder Aspekte aus der ersten Phase, aus der Phase der bonapartistischen Eroberung sind besonders wichtig und bleiben gültig auch für die nachfolgenden Phasen, also die zweite Eroberung nach der Schlacht von Marengo. Erstens die Verfassung. Es herrscht Einigkeit in Italien darüber, dass eine Verfassung nach französischem Vorbild überall eingeführt wird. Andere Modelle werden gar nicht mehr diskutiert, nicht einmal die englische Verfassung, also Verfassung französisches Vorbild. Zweitens, die ebenso komplette Übernahme des französischen Verwaltungssystems, des französischen Zentralismus in allen italienischen Staaten. Drittens, dieselbe, wiederum am französischen Modell ausgerichtete Staatsauffassung, Rekurs auf Gierke, der gesagt hat, während in den germanischen Ländern die Staatsorganisation von unten nach oben erfolgt, erfolgt sie in den lateinischen von oben nach unten. Und gerade diese Einrichtung des Staates von oben nach unten in Form eines großen Staatsapparates, der von oben nach unten ausgebaut wird, Form der Pyramide, wird damals in Italien voll akzeptiert. Im Gegensatz zu Deutschland, wobei für Deutschland darauf hingewiesen wird, dass ja Österreich größte Schwierigkeiten hatte, seinen neuen Zentralismus durchzusetzen und wobei gesagt wird, dass selbst Preußen eigentlich ja das Modell von Zentralismus in Deutschland gewisse Selbstständigkeiten hätte respektieren müssen und nur langsam den Zentralisierungsprozess durchlaufen hätte. Und als Kronzeuge wird Hegel mit seiner Schrift über die Verfassung Deutschlands aus dem Jahre 1802 genannt, in der eben Hegel darauf hinweist, dass die strukturelle Schwäche Deutschlands aus dem Polyzentrismus komme. Hegel also als Zeuge dafür, dass eben in jener Zeit der absoluten Zentralisierung in Italien, in Deutschland, der alte Polyzentrismus und die alte Staatsauffassung noch lebendig gewesen wäre. Sì. Vi è un punto sul quale vale la pena anche di soffermarsi, e che è un punto molto importante per la comprensione della validità dell'esperienza della rivoluzione francese in Italia. La polemica antirivoluzionaria a livello culturale in Italia scoppia molto presto. Pensate per esempio al Savoiardo de Maistre, che teorizza in certo senso un mondo politico, ideologico, istituzionale opposto all'astrattismo che gli condanna della rivoluzione francese. Ma il de Maistre in Italia non ha seguito. Il seguito del de Maistre riemergerà alla rivoluzione, dopo la rivoluzione, alla restaurazione. Durante la rivoluzione, durante il periodo napoleonico, de Maistre non avrà seguito. Ancora, nella pubblicistica politica italiana non è che non manchino dei fogli di proteste contro i francesi per i loro atteggiamenti. Si pensi per esempio a uno scrittore poco noto, Vittorio Barzoni di Lonato, è uno scrittore poco noto che nel 1798 è in certo senso la delusione del trattato di Campo Formio, dal punto di vista veneto forse, che produce questo, si arrabbia contro i francesi perché vogliono portare il loro sistema di governo in tutto il mondo, però resta una voce isolata. Più solido, più robusto, più contenutistico è il pensiero di Vincenzo Cuoco, l'autore del saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 99, che viene pubblicato all'indomani all'inizio del nuovo secolo. Ma questo saggio di Cuoco, che pure in certo senso rappresenta una certa presa di posizione energica, contestativa della esperienza rivoluzionaria condannata perché astratta, perché fondata sulla pura ragione, non sulla realtà storica, perché contrastante contro le tradizioni, gli usi, perché vuole applicare una universale cosmogonia alla tecnica di governo e non vuole essere aderente alla vita del singolo paese cui costituzioni e le istituzioni e leggi devono essere dirette, in Italia in fondo non ha seguito per tutto il periodo napoleonico, laddove invece in Germania questo tipo di pubblicistica trova ben altro spessore intellettuale e culturale, trova un ben altro vigore, trova un ben altro peso. E questo perché? Vari sono i fattori indubbiamente che possono aver portato alla differenza tra la formazione di una cultura antirivoluzionaria, storicistica, non collaborazionista, resistenziale in Italia e in Germania, e al maggiore sviluppo in Germania rispetto che in Italia. Resta comunque il fatto che questa cesura c'è. L'Italia, ad esempio, recepisce pienamente tutte le istituzioni francesi. Noi non abbiamo, io ho cercato di studiare ultimamente questi problemi, non abbiamo casi di resistenza aperta all'introduzione delle leggi francesi relative al codice Napoleone, salvo che per piccoli istituti e in piccolissime zone. In Germania invece la recezione del codice Napoleone, che vuole avvenire nel disegno imperiale attraverso una decisa immissione di questa nuova legge francese nelle province della Germania occidentale, trova una resistenza fortissima, resistenza che si traduce, e l'ha dimostrato molto bene la professoressa Fehrenbach nel suo libro, che si traduce in emendamenti, che si traduce in rallentamenti, che si traduce in tentativi di non introdurla, ma che si traduce soprattutto, è quello che a noi interessa sul piano dell'ideologia, che si traduce nell'elaborazione cosciente di una voce di dissenso che diventa predominante nella cultura istituzionale, nella cultura giuridica tedesca. Savigny non è un caso. La posizione di Savigny, la posizione della scuola storica tedesca non è una posizione casuale. Nasce in un determinato ambiente culturale, in un determinato ambiente politico, nasce sulla spinta di una reazione contro l'invasore, nasce sulla spinta di una reazione nazionale del popolo tedesco che fa della protesta contro la legge francese, contro il governo francese, contro l'amministrazione francese, fa di tutto questo il motivo coagulante della sua identificazione nazionale, il recupero di un'identità nazionale. In Italia questo non succede, anzi, in Italia l'unificazione nazionale è prodotta dalla legge francese che vale per tutta la penisola, dall'amministrazione francese che si irradia in modo di tela di ragno su tutta la penisola, uniformando aree geografiche prima diverse per, come organizzazione politica e amministrativa, distruggendo le leggi diverse. Cioè, il discorso quindi ci porta in certo senso a un confronto di posizioni per le quali nella reiezione dell'uniformità legislativa, politica e amministrativa della Francia, la Germania trova se stessa, o perlomeno cerca di trovare se stessa, anche se poi il discorso dobbiamo farlo un momento più avanti, più sfumato e più articolato. In Italia invece trova se stessa nell'unificazione. Ja, ein Punkt soll gründlicher behandelt werden, nämlich die Frage, inwieweit die französische Erfahrung akzeptiert worden ist, welche Gültigkeit sie für die verschiedenen, für die beiden verschiedenen Länder gehabt hat. Auch in Italien hat die antirevolutionäre Polemik bald begonnen, Lemaître oder Cuoco, mit einer sehr gründlichen antirevolutionären historischen Argumentation, jedoch diese antirevolutionäre Polemik sei in Italien isoliert geblieben, hätte während der französischen Zeit kaum Zustimmung gefunden, während ja die entsprechende Publizistik in Deutschland, weil sie eben in einer mehr traditionellen historischen politischen Kultur begründet war, sogleich größere Verbreitung gefunden hätte. Entsprechendes für die Rezeption des französischen Rechtes in Italien sei es völlig akzeptiert worden, in Deutschland vielfach bekämpft und nur mit etlichen Verzögerungen übernommen worden. In dem Zusammenhang der Hinweis auf Savigny und seine historische Rechtsschule, welche eben ja kein vereinzeltes Faktum gewesen sei, sondern eine Reaktion auf die Einführung des französischen Rechtes, der französischen Gesetze, der man sich widersetzt, im Namen der eigenen nationalen Identität, so sagt er für Deutschland, wäre in Italien gerade umgekehrt die nationale Identität durch die französische Gesetzgebung geschaffen oder im Wesentlichen vorangetrieben worden sei. Grazie. Il sistema francese, che era un sistema estremamente omogeneo dal punto di vista istituzionale, si fondava su due elementi portanti, l'apparato pubblico e il diritto, così dire, privato. L'apparato pubblico tendeva a sancire negli statuti costituzionali la supremazia dello Stato. L'apparato, diciamo, le norme private, attraverso i codici, tendevano a difendere con l'autonomia privata la libertà degli uomini e delle cose dal punto di vista della loro autonomia, del loro modo di agire nella vita civile. In Italia questi due concetti vengono recepiti insieme, totalmente, in modo completo, diciamo. E alla Restaurazione vedremo che anche quando i sovrani restaurati elimineranno le costituzioni, pur tuttavia il moto costituzionale si rifarà sempre ai modelli francesi elaborati nel tempo, aggiornati secondo l'esperienza storica francese. Anche lo Statuto Albertino del 1848 sarà l'ultima versione aggiornata, per così dire, del costituzionalismo francese della Restaurazione. Il discorso per la Germania non si può semplificare, perché sappiamo bene che in Germania, tutto sommato, esistono quattro aree almeno nei confronti della rivoluzione dell'impero. I paesi renani annessi, la Rive Gauche annessa, per la quale il destino si uniforma al destino della Francia. Secondo, la confederazione renana e gli stati vassalli che gravitano intorno ad essa, cioè il Berg e la Vestfalia, che sono affidati a Napoleonidi, diciamo. Terzo, la Prussia. Quarto, il mondo austriaco, per così dire. Lasciamo stare fuori il mondo austriaco per non complicare, diciamo, il discorso. Ma è indubbio che anche nei dipartimenti non annessi, cioè nella Confederazione Renana, la Confederazione del Reno, il tentativo napoleonico di introdurre le leggi francesi dà risultati molto scarsi al paragone di quelli che invece ha dato ovunque in Italia. Il codice civile francese, praticamente, è recepito nel solo Baden, e non senza difficoltà. Altrove si introduce, non si applica, si introduce e si emenda. Ci sono delle resistenze dell'apparato statale, della burocrazia, degli ceti forensi, diciamo, all'introduzione di questo codice civile francese. Il problema costituzionale, in quale viene risolto secondo i moduli francesi nel tempo, urta contro la presenza di gerarchie nobiliari costituite anticamente e gerarchie nobiliari di nuova data, quella borghesia che è stata aristocratizzata, diciamo, da Napoleone, che costituisce in certo senso un nuovo Stato, per così dire, un nuovo ceto sociale, e urta. E d'altra parte la tradizione della Ständische Verfassung, intorno alla quale ancora si teorizza e si discute e si polemizza in una vastissima parte della Germania, dimostrando come risponde fondamentalmente ai gusti, alle tradizioni, alla cultura, al modo di essere del popolo tedesco, fa da remora a quest'opera di introduzione di un modello costituzionale. E in pratica cos'è? Non è che non si accetta solo il codice perché è la legge straniera, ma tutto sommato si difende in certo senso una situazione normativa sul piano del diritto civile, si difendono posizioni che hanno la loro giustificazione logica, la loro giustificazione storica nel passato. Questo in Italia non c'è. È probabile, e questo è un italiano che avanza, che non osa dirlo, è probabile che la maggiore, diciamo così, resistenza culturale e intellettuale della Germania alla francesizzazione derivi, e qui ritorno al primo discorso sull'illuminismo, derivi dal maggiore spessore intellettuale e culturale della vita tedesca, dalla maggiore consapevolezza teorica, in certo senso, del valore della cultura, del valore della vita intellettuale in una società civile. E cioè, in pratica, la Germania, difendendo certe posizioni che sono il riflesso di certe impostazioni culturali, la Germania difende in certo senso il suo modo di essere come società civile. L'Italia ha un passato differente. La cultura è un fatto forse più elitario che in Germania. È un fatto che ha avuto dei momenti di grande splendore, dei momenti di decadenza. Ha avuto posizioni che sono posizioni di emarginazione di vertice, per così dire, e quindi in certo senso c'è un minore aggancio tra l'Italia che pensa, l'Italia colta, e l'Italia della nazione, viene meno dal profondo, per così dire. Il fatto che la cultura in Italia, la letteratura, tutto questo sia più elitario probabilmente, è quello che ha fatto sì che questo nuovo ceto borghese accetta più facilmente quanto viene dalla Francia borghese di quanto non lo possa fare in Germania, dove c'è un'aderenza alla realtà. È un'ipotesi che possiamo dire, è una conclusione che possiamo avanzare questa, ma è una conclusione che intorno alla quale dobbiamo pensare, dobbiamo discutere, intorno alla quale noi dobbiamo veramente valutare esattamente quello che ha significato in certo senso questa francesizzazione politica, giuridica e ideologica che invece non si è attuata in Germania. Non è solo la rivolta nazionale tedesca che porta alla battaglia di Lipsia, non è solo questo, è qualcosa che viene dal profondo dell'anima tedesca, secondo me, è qualcosa che viene dal profondo, è la paura di essere snazionalizzata in quanto quella cultura è qualcosa che si identifica più sulla generalità della nazione, probabilmente, di quanto non sia in Italia. Chiedo scusa. Ja, zwei Pfeiler des französischen Systems werden herausgestellt. Der öffentliche, der staatliche Apparat, welcher die Suprematie des Staates betont, und das Zivilrecht, welches unterhalb dieser staatlichen Suprematie die Freiheit des Einzelnen garantiert. Und beide Seiten seien in Italien voll akzeptiert worden. Und alle späteren Ansätze im Restaurationszeitalter hätten sich in beider Hinsicht am französischen Vorbild orientiert, bis hin zum Statuto Albertino, welches die letzte Auflage der Auseinandersetzung, der Rezeption der französischen Verfassung gewesen sei. Ganz andere Situation in Deutschland, wo zwischen vier Regionen unterschieden wird. Erstens das annektierte Rheinland, welches eben ohne Bedingungen die Entwicklungen Frankreichs mitmachen musste, zweitens der Rheinbund, drittens Preußen, viertens Österreich. Aber um die Sache zu verkürzen, ist nur der Rheinbund ausführlich behandelt worden. Er sagt, im Gegensatz zu Italien ist in den Rheinbundstaaten die Einführung der französischen Kodizes nur teilweise erfolgt und ganz nur in Baden gelungen. Und auch die Verfassungen, die dann eingeführt worden sind, stoßen gegen den Widerstand alter Eliten, aber auch neuer Eliten. Auch die inzwischen herausgebildete neue bürgerliche Elite hätte sich teilweise dieser Französisierung widersetzt. Es hätte eben historisch begründete Widerstände gegen die Neuerungen gegeben, vielleicht wegen der oder infolge der eingangs erwähnten größeren Kohäsionskraft der traditionellen politischen Kultur Deutschlands. Deutschland hätte in jener Zeit seinen Modus, eine bürgerliche Gesellschaft zu verwirklichen, verteidigt und hätte sich der Entnationalisierung seiner Kultur widersetzt, während in Italien die Kultur noch mehr als in Deutschland bloß eine Sache einer Elite, weitaus mehr als in Deutschland Sache einer Elite gewesen wäre, wogegen die neue, beginnende bürgerliche Gesellschaft die französischen Importe gern und bereitwillig übernommen hätte. Er meint, dass es in Deutschland eine aus der Tiefe historischer Erfahrung und eigener politischer Kultur kommenden Widerstand gegen die Übernahme der französischen Modelle gegeben hätte, und dass die Tiefe dieses Widerstandes und nicht erst die Freiheitskriege eben dann die Entfernung Deutschlands oder die deutsche Ablehnung der französischen Importe bewiesen hätte. Comunque è da rilevare una cosa, che mentre in Italia il successo dell'ideologia rivoluzionaria che si è accompagnato con l'introduzione delle istituzioni rivoluzionarie e napoleoniche è destinato a perdurare dal punto di vista, per esempio, dei codici senza soluzione di continuità o con breve soluzione di continuità e con una certa soluzione di continuità per il problema costituzionale, in Germania il successo delle forme giuridico-istituzionali della rivoluzione e dell'impero avverrà più lentamente, ma per molti aspetti avverrà successivamente. È strano, ma il problema costituzionale in realtà nella Germania emerge alla restaurazione, vale a dire che proprio negli stati che hanno fatto parte del territorio egemonizzati da Napoleone, è lì che all'indomani della caduta dell'impero napoleonico, quando cioè il problema della definizione della nazione tedesca, della presa di coscienza che la nazione tedesca faceva di se stesso, è superato nella vittoria all'invasore, è lì che emerge di colpo il problema costituzionale. Ed è lì che si attua il grande dibattito interno tedesco sulla forma antica di Costituzione, sulla Ständische Verfassung e sulla Costituzione che potremmo definire rappresentativa della nazione. Le varie Costituzioni che si seguono, Nassau, Sassonia, Weimar, Baviera, Baden, che poi è imitata da quella francese del 14, Württemberg, Hannover, che poi viene soppressa, per la Prussia il discorso è molto differente naturalmente, sono altrettante testimonianze che il processo è più lento, ma che l'idea costituzionale va avanti e che si decanta e che nell'insieme questa rivoluzione francese, pur accettata solo in parte o respinta in parte, ha fruttiferato lo stesso nel periodo successivo alla fine dell'egemonia francese in Europa. Voglio dire che quando si arriverà, in certo senso, a dare l'avvio alla soluzione del problema costituzionale tedesco, è stato citato prima la costituente di Francoforte come momento fondamentale della riflessione tedesca su questi problemi, tutto sommato l'esperienza francese allora sarà raccolta nel suo frutto più maturo. In Italia il discorso, frutto più maturo e più meditato naturalmente, in confronto con la tradizione e l'esperienza tedesca. In Italia il problema costituzionale invece subisce delle strane alternative. Voglio dire questo, tutto sommato in Italia, durante il periodo che precede il 1848, continua la dipendenza dai modelli stranieri sul piano costituzionale in Italia. Vale a dire, gli italiani non sono degli elaboratori di costituzioni legate a una tradizione propria, perché questa tradizione propria non c'è, l'unica tradizione che essi conoscono sul piano costituzionale è quella della recezione degli ordinamenti francesi. E allora si devono rivolgere sempre a modelli stranieri, e sarà la Costituzione di Spagna nel 20-21, e sarà riflessi di qualche cosa di britannico in Sicilia, e sarà la scelta definitiva di tornare al modello francese. Ma anche da questo punto di vista io direi che lo studio del problema giuridico e istituzionale che avviene in Germania negli anni che vanno dal 1814 al 1848 è uno studio che riflette, per così dire, un maggiore approccio tedesco alla inerenza della problematica giuridico-costituzionale, giuridico-civilistica, a quella che è la realtà della vita sociale tedesca. C'è un maggiore sforzo meditativo, c'è una maggiore consapevolezza di quello che si deve fare. In Italia il problema, per così dire, è stato già risolto con maggiore slancio dal momento in cui si è accettato un modello che veniva dal fuori. Ma lo si è accettato in piena consapevolezza, talché quel modello ha retto e in parte regge tuttora la vita nazionale italiana dal punto di vista aggregativo. Weitere Unterschiedlichkeit in Italien sei eben das französische Verfassungsmodell voll akzeptiert worden, es hätte vollen Erfolg gehabt. Und in Italien sei dann nach 1815 zwar auch das spanische oder das englische Vorbild erwogen worden bei denen, die an eine erneute Konstitutionalisierung Italiens dachten. Das heißt, also man sei immer beim ausländischen Vorbild geblieben und sei dann 1848 definitiv zum französischen Vorbild zurückgekehrt, während in Deutschland der Prozess langsamer, dafür aber dann auch gründlicher verlaufen sei. Dass eben doch das Problem der Verfassung eben nach dem Sturz Napoleons es wieder voll diskutiert worden sei, Diskussion zwischen ständischer und repräsentativer Verfassung, und dass man den Eindruck hätte, dass bei diesen ganzen Verfassungsdiskussionen in den einzelnen deutschen Staaten das Wissen oder die Einbringung der eigenen staatlichen Traditionen größer und stärker gewesen sei als in Italien, wo, wie gesagt, das französische ausländisches Vorbild überhaupt und speziell französisches Vorbild immer wieder voll akzeptiert worden sei. Praticamente il mio discorso, che potrebbe continuare lungamente con particolari, con dettagli, finisce qui. Finisce qui perché non voglio tediarvi e voglio lasciare spazio alla riflessione vostra, ai vostri interventi su queste mie suggestioni, su queste mie idee, naturalmente, che sono state lanciate per avviare un dibattito sul tema centrale del nostro seminario. Questo discorso è un discorso che ha preso le mosse da un antistorico parallelo. Non dovrebbe essere lecito fare paralleli tra entità diverse, fare paralleli e confronti tra realtà tanto differenti. Io ho voluto farlo, malgrado che Corsini avesse, per così dire, nella sua relazione messo in luce proprio come fosse impossibile, nel suo breve intervento, come fosse impossibile fare questo. Ho voluto farlo nella consapevolezza che è quanto di più antistorico e di più negativo si può fare. L'ho voluto fare proprio perché in questa maniera noi possiamo insieme riflettere su certe esperienze e possiamo insieme discutere sul modo in cui un processo di formazione dello Stato moderno si è avviato in Italia e altrettanto su un processo di formazione dello Stato moderno si avvia contemporaneamente in Germania. Quindi io vi ringrazio dell'attenzione e ringrazio il professor Lill di quello che ha fatto faticosamente per tradurre le mie misere note. Grazie. Ohne dass wir uns jetzt in den Austausch von Komplimenten vertiefen. Die Analysen waren so klar, dass sich das sehr leicht zusammenfassen lässt. Also zum Schluss nochmal betont, dass es ihm hier um eine antihistorische Position geht im Vergleich zu dem, was Corsini zu Beginn sagte, dass es eben ihm sehr wohl darum geht, unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Strukturen zu vergleichen, um aus diesem Vergleich eben den Prozess der Ausbildung des modernen Staates, der ja in Italien und Deutschland unter dem französischen Einfluss in sehr verschiedener Weise verlaufen ist, um diesen Prozess genauer analysieren zu können. Herr Ghisalberti hat also erfreulich früh geschlossen, trotz der Übersetzung hat das Ganze nur eine Stunde gedauert, sodass also eine gute Stunde Zeit zur Diskussion bleibt. Ich möchte jetzt schon darum bitten, die Diskussionsbeiträge analog zum Redner kurz zu halten. Wenn keiner über 5 Minuten redet, dann sind eben etliche Diskussionsbeiträge möglich. Ich glaube, bei den kurzen Diskussionsbeiträgen brauchen wir weniger Übersetzen. Wenn jeder einigermaßen langsam spricht, dann geht das ohne Übersetzen. Ich glaube, dass wir sofort weitermachen, weil wir ja dann eine lange Mittagspause haben. Ja. Können wir jetzt mal eine Liste machen? Ich habe nur eine ganz kurze, allgemeine Bemerkung. Das Thema, was wir erst auf Rat geführt haben, das meiner Ansicht nach hervorragend die konkurrierenden Bewegungen im Zeitalter der Restauration dargestellt hat. Wir können ja, verehrter Herr Kollege, von Restauration eigentlich nur sprechen, wenn wir uns beschränken auf innerpolitische Vorgänge und auf die konkurrierenden Denkbewegungen in diesem Zeitalter. Wann ist eigentlich das System Metternich wirklich verwirklicht worden? Als das System Metternich etabliert wurde auf dem Wiener Kongress, hat es doch nur funktioniert, von Kongressen, die für mein Gefühl zugleich ein Höhepunkt der europäischen Diplomatie in der Neuzeit gewesen sind. Aber auf diesen Kongressen zeigte sich bereits, dass das System der Restauration nicht mehr haltbar gewesen ist, nur für wenige Augenblicke, meine ich jetzt, kurze Zeit realisiert werden konnte, gescheiterte am Widerstand England, gescheiterte an den divergierenden Interessen der europäischen Mächte. Ich meine, was soll denn nur eine allgemeine Bemerkung cercato di mettere in rilievo che questo sistema metternichiano può essere considerato, e questo è il parere anche di molti, però che dura fino al 1848. Dal punto di vista del sistema metternichiano come politica internazionale, questo sicuramente si rompe molto rapidamente. Si rompe molto rapidamente e si può dire che col 30-31 il sistema, l'assetto politico-territoriale europeo nato dal congresso di Vienna si può considerare ormai frantumato. Però quello che era la carica spirituale e l'assetto politico-sociale interno dei singoli stati alla ricerca dell'equilibrio, va bene, vero? E della sintesi tra il problema dell'ordine e della libertà, questo, a mio modesto avviso, questo sistema va molto al di là del 31, arriva direttamente fino al 1848. Il problema dell'ordine, va bene, vero? E della libertà è il problema più cruccioso in tutto il pensiero metternichiano. E anche nei discepoli del Metternich, io penso al nostro Salvotti, trentino, il quale ad un dato momento scrive: di fronte alla necessità dell'ordine, sia internazionale sia interno ai singoli stati, anche l'istanza delle nazionalità deve assolutamente contenersi e cessare. Questo era quello che io davvero mi ero lasciato. Aperto il dubbio se questa visione, che per l'Italia credo possa essere accettata, possa essere anche considerata valida per la Germania. E avevo accennato alla conferenza del 34. Non so se ho risposto la salvia a quello che... La salvia? Sì. Io avevo alcune cose da dire sulla relazione del professor Possini. E alcune cose da dire sulla relazione del professor Zaccagni. Allora, non so se le cose riuscirò a questo punto a fondere, per essere bene, tra l'altro, di sulla relazione del professor Zaccagni, io non credo che, cioè, ovviamente non ci soffermerò sui elementi di concordanza. Non c'è dubbio, per esempio, che sono totalmente d'accordo sulla, diciamo, predominanza della cultura italiana fine Settecento, del Giro Napoleone, e poi della restaurazione fino al 48, la predominanza, diciamo, dell'influenza francese, di una cultura italiana. Basta pensare che la stessa recensione di una certa cultura tedesca in Italia viene attraverso l'opera di alcuni pensatori francesi, basta pensare alla Stern e così via. Così come mi pare anche da condividere, perché tra l'altro è un giudizio, diciamo, consolidato, questa differenza di sviluppo del nazionalismo italiano e del nazionalismo tedesco. E il problema invece però sono di altra natura, diciamo che su questo intervento, sperando ovviamente di non avere nessuna, come dire, nessuna intenzione di difendere l'Italia e la comunità italiana. Diciamo, ho dei gruppi dell'università e che il professor Isabelli ha fatto molto bene a, diciamo, chiarire, a mettere nettamente, diciamo, in termini netti la tesi della sua relazione, che questo ci consente anche di semplificarci e di semplificare la discussione. Gli elementi sui quali non sono in disaccordo, comunque sono perplesso, diciamo così, rispetto alle cose del professor Isabelli. Questa supposta autoctonia dell'illuminismo tedesco rispetto all'illuminismo italiano. Ora, non c'è dubbio, per esempio, che la cultura tedesca, da Leibniz a Kant, si muove ancora in una prospettiva che fa di questi intellettuali degli intellettuali europei, più che degli intellettuali specificamente tedeschi. Allora, in che cosa consiste questa autoctonia? discendente dell'illuminismo italiano ha proprio con la fase, diremmo, più felice della presenza austriaca in Lombardia, e cioè con la collaborazione con le forze appunto del riformismo illuminato austriaco in Lombardia, insomma, cioè una collaborazione poi che appunto non è soltanto sul piano di una apertura intellettuale, ma una collaborazione che voglio dire incide anche sulle strutture, sulle vita universitarie, sulla trasformazione di certi apparati amministrativi dello Stato. E così anche nel caso del Regno di Napoli, per esempio, non c'è dubbio che tutta la grande fase, diciamo, di collaborazione tra la tradizione giuridica napoletana e l'esperienza di Carlo III e di Ferdinando I, il grande impegno nella lotta contro le prerogative della Chiesa e così via, direi che giunge al momento di rottura più tardi. Il momento di rottura, diciamo, è classicamente individuato nel 1909, in questa, diciamo, repressione che vi sarà da parte della monarchia restaurata. Ecco, quindi questa presenza, diciamo, questo è importante, voglio dire, perché per esempio soprattutto nell'area tedesca, soprattutto nell'area lombarda, implica secondo me una presenza o comunque una compresenza verso gli istituti giuridici e amministrativi austriaci, non solo francesi. Quindi è un problema che probabilmente andrebbe così, come dire, in qualche modo, visto qualche rilievo nel discorso che noi dovremmo fare. Poi l'altra questione sulla quale io ho delle curiosità è questa, diciamo, assenza nella tradizione italiana di una resistenza alla Francia, all'influenza francese. E qui diciamo che è vero che in Germania questa resistenza è meno accentuata, però anche qui nel caso della Germania io credo che noi dovremmo distinguere appunto quelle aree tedesche di cui parlava il professor Ghisalberti, sono molto significative secondo me per capire una diversità di rapporto che esiste nell'area che noi chiamiamo tedesca rispetto alla presenza francese, perché non c'è dubbio per esempio che le resistenze che si avranno in Prussia non saranno le stesse resistenze che si hanno nell'ambito per esempio della Confederazione Renana o degli stati appunto confinanti, regioni confinanti con la Francia. E qui appunto, non so, la cultura tedesca ha anche in questo senso dei nomi anche illustri che possono, diciamo, testimoniare un diverso atteggiamento nei confronti di questa influenza francese. Ma per quanto riguarda l'Italia, uno per esempio c'è dubbio che uno dei centri di resistenza alla Francia, alla rivoluzione francese, sarà proprio il Piemonte, che si sentirà stazionalizzato dalla presenza francese. E non è soltanto De Mestre, ma qui basti pensare ad Alfieri e a tutto quello che si muove con Alfieri intorno appunto all'Accademia dei Concordi e così via, che diciamo poi avrà un certo ruolo nella successiva elaborazione del pensiero politico piemontese. Poco è stato citato dal stesso professor Ghisalberti, e poi c'è un altro caso clamoroso, cioè il caso di Romagnosi, cioè forse quello che è il più grosso giurista italiano. Questo caso Romagnosi tanto resiste ad una automatica assimilazione del codice civile napoleonico nell'esperienza italiana che perde il posto, diremmo in termini contemporanei. Cioè Romagnosi si dimette da consigliere del ministro della giustizia, diciamo il gran giudice Luosi, perché evidentemente ha un contrasto deciso su come è stato elaborato il codice civile e non è affatto d'accordo con questa recensione automatica del codice civile francese in Italia. Così anche nella discussione derivata sta per Roma, un contesto delicato, interessante di resistenza all'influenza della tradizione costituzionalista francese è quella che si sviluppa negli anni intorno al 13, e non soltanto la discussione che ci sarà in Sicilia sul modello inglese, ma questa discussione avrà nell'Italia centro-settentrionale, poi evidentemente siamo in una fase di crisi dell'egemonia napoleonica e quindi siamo in una fase in cui si cercano anche, come dire, delle soluzioni, delle alternative possibili, ma per esempio è conosciuto e noto appunto questa attenzione che gruppi persistenti occupazione, pubblicherà clandestinamente un'opera della monarchia rappresentativa, che poi sarà ripubblicata successivamente e per la quale naturalmente correrà rischi connessi alla pubblicazione. Ed è interessante che lui si difenderà dicendo: io non discuto della situazione italiana, ma discuto in generale il problema di una organizzazione giuridico-politica dello Stato. Ecco, questo per esempio è uno sforzo che nella cultura politica italiana esiste, di trovare forme di organizzazione politica che non rispecchino automaticamente quella francese. E non è un caso appunto che il romanismo si, per esempio, insiste su questa idea della rappresentanza degli interessi, che evidentemente in qualche modo forse recepisce, teniamo conto che Romagnosi ha lavorato a Trento alla fine di secolo, quindi ha avuto influenze e contatti con la cultura tedesca, che forse diciamo in qualche modo risente di queste resistenze cecuali che nell'ambito della Germania costituiscono una grande resistenza all'accentramento statuale e che quindi hanno anche un rilievo diverso rispetto all'Italia, e che quindi, voglio dire, questa presenza di un tentativo di indicare strade nuove che evidentemente poi non riuscirà anche per le condizioni politiche. Quindi, voglio dire, se è vero che l'Italia poi resisterà molto meno alla influenza napoleonica, all'influenza francese e quindi ai modelli francesi, questo non è soltanto una carenza della nostra intellettualità, un limite della nostra intellettualità. Diciamo che su questo può darsi anche che ci sia, non è che uno per questo deve fare forse il difensore italiano. Ma forse dovremmo rivolgere l'attenzione a un altro aspetto che secondo me è importante, cioè nell'area tedesca continuano a permanere dei muri statuali di civilizzazione germanica, la Prussia e l'Austria, che hanno un carattere obiettivamente di resistenza alla francesizzazione della Germania. L'Italia con Napoleone è praticamente francesizzata di fatto. Appunto, il caso di Romagnosi, che dicevo prima, Romagnosi resiste e si dimette, ma oltre questo non può fare altro, perché lì chi conta sono appunto gli eserciti francesi e la presenza francese in Italia, che di fatto, diciamo, ecco, quindi su questi elementi ho, diciamo, dei problemi, delle perplessità, diciamo, sui quali appunto forse no, no, dite quello che vuoi, così facciamo. Grazie. Ja, darf ich zwei Bemerkungen anschließen? Danach hat sich auch schon Herr Weiß gemeldet. Wir werden also noch einige Zeit diskutieren. Zwei Bemerkungen, deren erste auf einen Punkt von Herrn La Salvia eingeht. Ich glaube, wenn man die Situation vor 1789 in Deutschland betrachtet, dann kommt es weniger auf die geistige Autonomie der deutschen Aufklärer an, als auf die politische Realität des aufgeklärten Reformismus. Nehmen wir Friedrich den Großen und Maria Theresia und Josef II. Als große Modellfiguren, dann sehen wir ja eine Modernisierung des Staates von oben, die so effizient und so wirksam ist und auch den unteren Klassen Vorteile bringt, dass eben der Konsens zum Staat ganz wesentlich gestärkt wurde und dass eben keine prärevolutionäre Situation entstehen konnte. Dass die Mehrzahl der politisch Denkenden zwar Reformen wollten, aber keine radikale Umänderung. Natürlich sah man ein, dass Teile der Reichsverfassung, etwa die Reichskirche, nicht haltbar waren. Man denke an die Säkularisationsdiskussionen vor der Säkularisation. Aber im Wesentlichen glaubte man ja doch, dass sowohl die politische Gesamtordnung des Reiches wie jene Modernisierung, die sich in den größeren Einzelstaaten vollzogen hatte, ausreichend war. Übrigens hat diese Modernisierung von oben auch den für das politische Denken Deutschlands meines Erachtens fatale Folge gehabt, dass man sich ein für allemal daran gewöhnte, dass der Staat für die Untertanen sorgt und dass von daher eben aufgrund des aufgeklärten Reformismus jene Gehorsamshaltung und jene gut Untertanenmentalität mit entstanden ist, die ja dann bekanntlich von allen möglichen Systemen in Deutschland ausgenutzt werden konnte. Eine zweite kurze Bemerkung, obwohl die generelle Lage, also meines Erachtens, nicht prärevolutionär war, sondern eben im Sinne eines langsamen, sehr, sehr maßvollen Fortschritts, so glaube ich trotzdem, dass im Westen Deutschlands die französischen Rechte und das, die französischen Kodizes etwas bereitwilliger aufgenommen worden sind, als Herr Ghisalberti darstellte. Ich möchte da nicht in Einzelheiten gehen, Herr Weiß kann das sehr viel besser. Ich möchte nur daran erinnern, dass die Rheinländer, als sie 1815 preußisch wurden, also nach einer nur kurzen französischen Erfahrung, es war ja im Wesentlichen nur ein gutes Jahrzehnt, von 1801 bis in die Kriegsperiode, die letzten Jahre muss man ja schon wieder abstreichen, dass man nach diesen wenigen Jahren alles tat, um das französische Recht beizubehalten. Und dass das dann ja auch gelungen ist, dass eben das französische Recht nach 1815 trotz Restauration auf dem ganzen linken Rheinufer, im linksrheinischen Preußen, im linksrheinischen Bayern erhalten blieb, auf Wunsch der Repräsentanten der Bevölkerung. Dasselbe gilt für Baden. Dies scheinen mir Symptome dafür zu sein, dass man im Westen und im Südwesten eben noch die neue Ordnung nicht, weil sie französisch war, sondern weil sie der eigenen mehr oder minder bürgerlichen Entwicklung viel mehr entsprach als etwa das allgemeine Landrecht, dass man die Französisierung insofern bereitwillig und gern übernommen hat. Bis 1900. Bis 1900, bis zur Einführung des bürgerlichen Gesetzes. Allora, per Ghisalberti devo tradurre molto brevemente, mi pare, primo punto, che per la situazione prima della rivoluzione non è così importante la questione di autonomia degli intellettuali tedeschi quando la realtà del riformismo illuminato che aveva modernizzato in gran parte i rispettivi stati, con la conseguenza che si discuteva sì di certe riforme, si discuteva per esempio degli stati ecclesiastici, dei principati ecclesiastici, però l'impero come tale e gli stati, Austria e Prussia, così come si erano riformati sotto Federico II, sotto Maria Teresa, Giuseppe II, non venivano messi in discussione, certo. Questi stati funzionavano bene e anche a favore delle classi meno abbienti. Perciò non c'era il desiderio di una rivoluzione, anche con la conseguenza che si è formata allora quella mentalità politica tedesca che si aspetta tutto dallo Stato, punto dall'altro. Secondo punto, nonostante questa situazione generale, mi pare che la recezione delle leggi e dei codici francesi fu più viva e più attiva nelle parti occidentali quanto tu dicevi. Come esempio, i renani hanno difeso dopo la caduta di Napoleone il diritto francese e sono riusciti a mantenerlo così che la riva sinistra del Reno restava una fascia in cui restava in vigore fino al 1900 il diritto civile francese. Lo volevano mantenere non perché era francese ma perché corrispondeva più alle esigenze locali, alle esigenze e alla società più borghese, la quale si era sviluppata e formata sotto il Settecento, così che le leggi francesi erano per la Germania occidentale molto più moderne che non il Allgemeines Landrecht. Certo, fammi rispondere, scusa, non ti dispiace adesso, preferirei. Non vuoi aspettare Weiss? Ah, sì. Weiss, sì. Scusa. Vielleicht sollte Ghisalberti zunächst auf die Frage vorhergehen, den Fragen antworten. Preferisce che tu rispondi prima alle domande già. Grazie. Allora, rispondo subito in sintesi. Primo punto, faccio una dichiarazione. Nello spazio di 40 minuti allungati dalla traduzione dell'amico Lille, io sono stato fatalmente limitato, compendioso e lacunoso. Non potevo citare tutto e tutti. Primo punto. Secondo punto, nello stesso spazio di tempo ho voluto fare una sintesi, non una sintesi di quello che in realtà non si è realizzato, ma che si sarebbe potuto realizzare quanto di ciò che si è realizzato, perché in realtà in storia ciò che si realizza conta più di ciò che non si realizza. Premesso questo. Allora, io sono tuttora convinto che vi è una maggiore autonomia dell'illuminismo come cultura illuministica tedesca rispetto all'illuminismo italiano. So benissimo che anche in Italia, nei paesi controllati dalla Casa d'Austria o soggetti comunque a una influenza della Casa d'Austria, molte idee sono entrate per il tramite di Vienna. L'esempio della Lombardia e della Toscana è evidentissimo, però so altresì che all'atto stesso in cui queste idee entravano era ancora una rielaborazione molte volte e una nuova edizione di idee che avevano la loro genesi dal punto di vista politico soprattutto nella Francia da Luigi XIV in poi. Per esempio, non c'è dubbio che l'esperienza viennese di Giuseppe II riflette come c'è per certi aspetti, per esempio dal punto di vista della gestione delle amministrazioni locali e della liquidazione dei corpi intermedi nella Lombardia austriaca, riecheggia abbastanza da presso certe esperienze che erano in atto in Francia, per esempio. Per quanto attiene alla resistenza alla codificazione napoleonica in Italia, hai fatto bene alla Salvia a citarmi il caso di Romagnosi, però è altresì vero che al di là del caso di Romagnosi, questo paese ha accettato, non so se con entusiasmo o non con entusiasmo, ha accettato le leggi francesi, perché quelle leggi francesi corrispondevano perfettamente alle esigenze di una società in sviluppo qual era quella italiana di quel periodo. E poiché appunto quello che conta è quello che si realizza, secondo me, anche se il numero di giuristi o di professori avranno bofonchiato sul fatto che un certo articolo di codice era migliore di un altro e che certi progetti elaborati in Italia avrebbero avuto maggior seguito, resta il fatto che questo paese è stato retto dal 1805 in poi, dal 1806 in poi, sulla base del codice Napoleone, e tuttora è retto sulla base del codice Napoleone. La lunga durata è la testimonianza del successo. Questo è un altro punto. È duro dire così, ma è così, è così. Quello che conta in storia è questo, ti chiedo scusa, insomma, non la storia è betont eben dass in der Geschichte das zählt, was wirklich realisiert worden ist und was Dauer hat. Und das insofern also das Faktum alleine, dass eben die napoleonischen Kodizes seit 1805 im ganzen Land eingeführt worden sind und dass sie eigentlich weiter gewollten haben, per le istituzioni però. Seine These belegt von der Bereitschaft Italiens, das französische Rechtssystem voll zu übernehmen. Un altro punto. Resistenza antifrancese in Piemonte. È esatto. In Piemonte ci sono cenni di resistenza antifrancese che sono la resistenza soprattutto all'annessione del Piemonte alla Francia, che indubbiamente urta contro una tradizione indipendentistica piemontese. Verissimo. Non ho parlato del problema dell'annessione del Piemonte, ho parlato del problema delle istituzioni più in generale, codici e testi legislativi, eccetera. Resta il fatto che buona parte della classe dirigente subalpina, il pensiero mi corre subito al giovane Balbo, il pensiero mi corre al presidente della Corte di Cassazione Lasagni che diventa presidente della Corte di Cassazione di Parigi, il pensiero mi corre al giovane conte da me studiato Giacomo Ugo Botton di Castellammonte, sul quale ho scritto da ragazzo un articolo, buona parte della classe colta subalpina va a lavorare in Francia, prende servizio nelle amministrazioni francesi, prende servizio nella giustizia francese, si onora di essere suddita della Francia, dell'imperatore, e ci rimane molte volte dopo la restaurazione. Questo è un altro punto. Certo, c'è stato il trauma dell'annessione, però c'è stata anche l'adesione alle istituzioni francesi, che poi, in effetti, quell'adesione che porterà la monarchia sabauda a ritornare, dopo i primi passi della restaurazione, a quei moduli organizzativi francesi. Sicilia. Io ho parlato della penisola italiana, La Sicilia è un'esperienza a parte. La Sicilia ha una tradizione di anglofilia che diventa una tradizione di anglodipendenza nel periodo delle guerre napoleoniche, perché siccome i francesi soffrivano il mal di mare, non potevano attraversare dopo Trafalgar nessun braccio di mare. E allora la Sicilia ha avuto una sua vicenda tutta autonoma. Comunque, Non è detto che questa autonomia della vicenda politico-istituzionale siciliana si debba considerare una forma positiva rispetto all'andamento della storia d'Italia. Non è detto questo. Anche perché, tutto sommato, semmai questo richiamo a una tradizione storica della Sicilia è servita a configurare nel tempo un richiamo a che cosa? Ai privilegi di un'aristocrazia feudale antica, molto spesso legata a tradizioni aristocratiche antichissime. Per quello che riguarda quello che diceva l'amico Lill, sono perfettamente d'accordo sull'osservazione della Germania pre-rivoluzionaria, nel senso dell'incidenza dell'assolutismo illuminato, diciamo così, in Prussia e in Austria, e anche sul fatto che questo assolutismo illuminato in Prussia e in Austria ha fatalmente avuto dei corifei, diciamo così, degli accompagnatori ideali in una certa cultura che si era formata alle idee illuministiche, e anzi semmai mostra proprio l'autonomia maggiore, diciamo, di quella cultura tedesca, che aveva dei punti di riferimento estremamente solidi, estremamente robusti. Giuseppe II non è un personaggio, o Federico II di Prussia non sono personaggi evidentemente che siano passati inosservati al centro intellettuale, anzi hanno avuto continuamente sono stati elementi della riflessione intellettuale. Per quello che tu mi dici sulla maggiore facilità della recezione degli principi ispiratori della legislazione delle istituzioni francesi nella Germania dell'Ovest, dell'Occidente, è vero, questo è vero, però anche lì l'unico caso di codice civile è il Baden. Il Baden è quello dove entra in vigore, e poi ci sono le province annesse ai dipartimenti cisrenani della Renania, ma il Baden è l'unico, mi sembra, l'unico Stato in cui quel codice civile entra in vigore senza emendamenti, senza difficoltà. Altrove c'è sempre qualche difficoltà. E nel Baden, e poi, come dice giustamente Vandusk adesso, nei paesi cisrenani, dove resta tutta la struttura, perché sono così omologati, diciamo, il tessuto culturale francese e sociale francese. Grazie. Culturelli, sociali, culturelli. Aber bitte, Herr Weiss. Come non posso formulare abbastanza bene in italiano, prego il nostro collega. Grazie. Gli angeli custodi sono, loro sono gli angeli custodi. Ma lui potrebbe la... Ma parla italiano benissimo. Sie haben die Ausgangssituation verglichen zwischen Italien und Deutschland vor der Französischen Revolution oder beim Ausbruch der Französischen Revolution. Man muss vielleicht noch ein Element bedenken. In Deutschland gab es eine gemeinsame staatliche Organisation seit fast 900 Jahren, das Reich, das eine Art Dach über diesen vielen Territorien darstellte. In Italien gab es seit dem Ende des Imperium Romanum keine gemeinsame staatliche Organisation, sondern völlig unabhängige Staaten, und ein Teil Italiens war von ausländischen Mächten, von Spanien und Österreich beherrscht. Vielleicht ist deswegen das italienische Nationalgefühl intensiver gewesen als das deutsche in der Zeit um 1800. Hier gab es nur eine Alternative in Italien, entweder eine komplette Vereinigung in zentralistischer Weise nach dem französischen Modell oder das Fortbestehen souveräner, isolierter Staaten. In Deutschland gab es eine Art Mittelweg. Man hoffte damals noch auf die Reformen, die in den einzelnen Staaten durchgeführt wurden. Eine andere Bemerkung: In Deutschland spielt der absolute aufgeklärte Absolutismus eine Rolle. Er hat schon eine Reihe von Reformen durchgeführt. von die Dificultà di Zentralismo. Die französische Revolution gebracht wurden. Meine Frage ist, in Italien gab es ja auch aufgeklärten Absolutismus, zum Beispiel in Toskana oder auch in Neapel zeitweise, Tanucci, oder in Parma und Piacenza oder auch in den österreichischen Gebieten zur Zeit Josef II. Hat dieser aufgeklärte Absolutismus, waren die Italiener unzufrieden mit den Leistungen dieses aufgeklärten Absolutismus? Und gab es vielleicht eine Kontinuität, so wie es sie in Österreich gab, zwischen den Beamten, die vorher den aufgeklärten Absolutisten bedient hatten und die dann zum Jakobinismus übergingen? Wollen Sie das vielleicht erstmal? Ja. Also ganz kurz, il primo punto è quello della organizzazione politica. Che in Germania c'era l'impero che esisteva da quasi 900 anni e che formava almeno una debole organizzazione, un tetto messo al di sopra dei singoli stati. In Italia invece da prima tutti gli stati erano indipendenti senza legame tra di loro e in gran parte governati da stranieri. Allora per gli italiani forse c'era soltanto l'alternativa o restare in questo vecchio sistema di vari stati oppure attuare una unificazione, mentre la Germania poteva sperare in una via di mezzo. E poi le riforme dell'assolutismo illuminato avevano, sostiene anche lui, in Germania già realizzato molte delle richieste dell'illuminismo, cioè in gran parte era già realizzato quello che in altri paesi la rivoluzione doveva ancora realizzare e che perciò la situazione era diversa. E lui domanda se l'assolutismo illuminato, che ha operato anche in Italia, non abbia potuto contentare, se e perché non avesse potuto contentare gli italiani, e infine chiede che anche qui in Italia c'è stata quella continuità personale di funzionari, come per esempio in Austria, che funzionari che prima erano al servizio dell'assolutismo illuminato passavano poi al giacobinismo. Grazie professor Weiss. Ich habe noch zwei Fragen, kommt, aber due. Ich mache es ganz kurz. Ah, c'è ancora? Ich glaube, Sie haben das Trauma der Abtretung des linken Rheinufers für die Deutschen etwas überschätzt. Die Deutschen um 1800 oder um 1805 haben sich noch nicht sehr darüber erregt. Wenigstens habe ich den Eindruck, es waren mehr die Fürsten, die diese Verluste bedauerten und die entschädigt werden wollten. Der deutsche Nationalismus kam erst mit den Befreiungskriegen, meiner Ansicht nach. Dann noch eine Bemerkung, die deutsche Aversion gegen Frankreich begann eigentlich erst mit dem Einrücken französischer Truppen in Deutschland, nicht mit der Abtretung des linken Rheinufers. Die Bevölkerung wurde sehr stark wirtschaftlich belastet durch die Forderungen dieser französischen Truppen. Und auf der anderen Seite, die deutschen Jakobiner waren enttäuscht, weil die Franzosen nicht ihre Hoffnungen erfüllten. Die französischen Generale unterstützten nicht die Bestrebungen der deutschen Jakobiner, sondern sie sogar den Namen der Führer der Jakobiner, den König von Bayern. Und das war in Italien ja auch so. Weder die Revolution noch Napoleon hat ja die Einheit Italiens gefördert. Italien wurde ja zersplittert in mehrere Staaten. Das müssen ja die italienischen Jakobiner auch gemerkt haben. Und dann noch ein Punkt, die Einführung des Code Napoleon ist meiner Ansicht nach, das hat auch der Kollege da drüben schon gesagt, die Einführung des Code Napoleon ist nicht primär aus nationalen Gesichtspunkten abgelehnt worden, sondern mehr aus gesellschaftspolitischen Sichtpunkten. Der Adel war dagegen. Ha mancato unificazione. Auch aus, zum Teil aus rechtlich-prozessualen Gesichtspunkten. Man glaubte, er widerspreche den regionalen Rechtstraditionen zu stark. Ich werde darüber heute Nachmittag sprechen. Sì. Posso sì, dire? Hai capito tutto? Beh no, di te perché è meglio. Allora, qualcosa. Lui dice che forse è stata sopravvalutata la missione della riva sinistra. Il trauma della annessione, perché questo trauma non c'era ancora, il popolo non ha sentito molto questa annessione, i principi sì, perché adesso volevano avere dei compensi sulla riva destra, ma nel popolo non c'era, non è stato sentito molto questo problema. Il sentimento nazionale nasce più tardi, nasce dopo con le guerre. Sì. La versione contro la Francia incomincia non con l'annessione della riva sinistra, ma dopo l'entrata delle truppe francesi e dopo con l'esperienza della realtà sotto il governo francese, con gli sgravi. Le requisizioni, le tasse, eccetera. Gli stessi giacobini sono delusi dai francesi perché i generali francesi non sostengono i gruppi locali. E poi, anzi, li denunciano ai principi. Sì. Und dann hatte sich Frau Gernert gemeldet und dann Herr Bussmann und dann Herr Butt. Posso rispondere io? Franco Vincenzi, sì, aspetta, rispondo al professore Weiss. Sì. O vuoi Franco, ci vuoi dire tu, poi rispondo. Sì, come vuoi tu. No, come vuoi tu. Io dico due cose. Se ecco, di tu, poi rispondo. Sì. Ja, ich würde gerne noch eine ganz kurze Anmerkung machen zu den Umständen an die Ausführungen von Herrn Salvia. Ich möchte nämlich in der Tat auch die Richtung der Rezeption der französischen Verfassung, des Zentralismus also, doch etwas mehr verschieben zugunsten eines durchaus starken Überlegungen eines Föderalismus. Die stellvertretenden Namen eines Kreises sind hier Giuseppe Ferraris, bekannt, und Carlo Cattaneo, und speziell die Publizistik der 40er Jahre zeigt, dass es zwei sehr große Vorbilder gab in den Verfassungsvorstellungen des Föderalismus. Das war einmal die Verfassung der Konföderation der Vereinigten Staaten, die vor allem von Carlo Cattaneo sehr stark präferiert wurde, und es war das föderale System der Schweiz. Und beides wurde lang ausgiebig diskutiert. Der Föderalismus stammte nicht aus einer antifranzophilen Haltung. Sowohl Cattaneo als auch Ferrari mussten nach der 48er Revolution ein Exil aufsuchen und haben Frankreich gewählt, haben auch in Frankreich publiziert, haben auch ihre föderalistischen Ambitionen in Frankreich vertreten. Und man wollte damit kein antifrankophiles Feindbild heraufbeschwören, sondern in alter, wirklich streng liberaler Tradition lokale Eigenständigkeiten. Es gab auch in Italien so Nord-Süd-Gefälle, von der kulturellen Entwicklung her, von der materiellen Entwicklung, auch wenn man noch nicht von Industrialisierung sprechen kann, doch der sehr viel stärker agrarisch orientierte Süden im Gegensatz zum sehr viel mehr intellektuell ausgeprägten Norden. Und ich meine, im Gegensatz zu Herrn Ghisalberti, dass der Sieg des realistischen Zentralismus noch lange nicht bedeutet, dass man starke Überlegungen als Historiker ausklammern darf und in der Wichtigkeit nicht unterschätzen sollte. Und die Publizistik der 40er Jahre ist ein Beispiel par excellence. Aber Sie können das jetzt selber kurz auf Italienisch sagen. Oh nein, bitte nicht. Also, l'origine del federalismo come reazione al centralismo, che non c'era soltanto questo modello francese, ma c'era il modello federalista, che veniva dagli Stati Uniti, della Svizzera, molto discusso nella pubblicistica, Cattaneo, eccetera, e che questi uomini non erano antifrancesi, però erano anticentralisti. Certo. Anche per le ragioni, per la situazione in Italia, allora fra nord e sud, eccetera. Sì. E dice, anche se poi ha vinto il centralismo, non si può spazzar via. L'individualismo. Sì. E il regionalismo. Sono soltanto quelli che hanno avuto successo sono degni di essere ricordati nella storia. Sì, ma siamo d'accordo su questo, dico, non era solo una cosa, ho detto che era un espediente d'economia mentale, ho detto, non, Frankovic. Ah sì, io volevo rispondere alla domanda del collega Weiss, che mi pare ha chiesto se gli italiani erano contenti del riformismo illuminato. Ah, rispondi tu, benissimo. No, volevo esprimere la mia opinione, non so se coincide con la tua. Felicissimo. Dunque, dicevo, uno scarico se di lavoro. Gli italiani erano contenti, io credo di sì, almeno per quella parte di italiani che pensavano e potevano esprimere la loro idea. E vorrei notare questo, che non sono i riformatori italiani che si allontanano dai principi, sono i principi che si allontanano, dal riformismo. Sono i principi. I riformatori italiani continuano la loro strada. Una parte, la sinistra, accetta le idee francesi, un'altra parte accetta Napoleone e l'altra. Poi finiscono tutti quanti poi per accettare più o meno Napoleone. E vorrei, per quanto hai detto tu nella tua ottima e chiarissima e per me veramente grande illustrazione della parte così giuridica che io ignoro e della quale sono completamente ignorante e che per questo mi ha molto interessato, io da quello che hai detto tu direi che l'influenza culturale austriaca in Italia è stata molto ridotta, molto poco. Gli italiani non leggevano il tedesco. È grande l'influenza forse amministrativa, nel campo amministrativo. Culturalmente l'Italia non accetta idee dalla Germania, non vengono idee attraverso il principe, vengono attraverso la Francia. Quando Pietro Leopoldo sostiene il costituzionismo è l'esempio americano. Sì. Quando Pietro Leopoldo sostiene la Chiesa, supremazia dello Stato, almeno in un certo modo rispetto alla Chiesa, è il giansenismo italiano. Cioè c'è una, è francese, c'è una, uno spirito autoctono italiano. E direi che non bisogna, e con questo ho finito, diminuire l'influenza della Francia in Germania. Per quel poco che io ho capito, ho studiato, l'influenza di Rousseau, ma anche quella più radicale di Holbach, di Helvetius, è enorme anche in Francia. Io penso agli illuminati di Baviera, per il poco che ho studiato, lì veramente tu senti proprio l'evoluzione di un pensiero fino al direttorio francese. Posso, darf ich dazu etwas sagen, gleich, weil sich daran anknüpft. Es gibt in Deutschland auch genauso eine starke Hinwendung zu den französischen Ideen, aber sie werden dann teilweise verwirklicht durch die eigenen Fürsten. Und das gibt ein Selbstbewusstsein. Das Beispiel des Markgrafen von Baden ist ein besonders krasses Beispiel. Der Markgraf von Baden ist völlig abhängig, er und seine Berater, von den französischen Physiokraten. Er führt die Beispiele der französischen Physiokraten ein, die ein Poenik und so weiter, aber er macht das eben, es macht eben ein deutscher Fürst mit deutschen Beratern. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Vielleicht ist der aufgeklärte Absolutismus in Italien dadurch etwas schwächer, dass es hier doch ein fremder Fürst, zwar auch mit einheimischen Beratern, den toskanischen, den lombardischen Beratern, aber auch zum Schluss, besonders bei Josef II., dann auch wieder mit Deutschen, also mit Fremden, beraten macht. Ich glaube, das spielt eine sehr wesentliche Rolle. Und es gibt natürlich auch in Italien die Opposition, Frankovic hat das schon angedeutet, ich möchte es nur noch unterstreichen, die Opposition von Reformern und Beamten und so weiter, die sagen, wie die Franzosen kommen, das, was ihr uns jetzt bringt, das haben wir ja schon längst gehabt. Ihr bringt ja Reaktion. Wir haben ja haben das ja schon viel weiter gehabt und jetzt kommen diese Leute des Direktoire und da gibt es also eine Publizistik in der Toskana. Tutto, Bello und Gianni, und dann haben wir die Beispiele natürlich der Funktionäre, die vom aufgeklärten Absolutismus über den Jakobinismus zu Napoleon und zum Schluss zur Restauration gehen. Das ist ganz natürlich in solchen Zeiten. Wir haben sie ja auch erlebt, dass man da eben Wellen reitet von einer Welle zur anderen. Die Intellektuelle sind immer dasselbe. Herr Gisalberti möchte zunächst auf die bisherigen, dann kommen noch Herr Bussmann und Herr Budrus. Dann gehen wir essen. Al professor Weiss ringrazio le osservazioni sul Sacro Romano Impero come elemento di equilibrio interno della nazione tedesca e sulla difficoltà del CE dell'introduzione di un sistema centralistico in Germania, sono perfettamente d'accordo. Per quello che riguarda il problema della mancata unificazione italiana come elemento di frizione, di frattura con la Francia direttoriale e napoleonica, prima direttoriale, poi napoleonica, questo è un fatto evidentemente troppo evidente, che coloro che avevano una coscienza nazionale italiana erano offesi dal fatto che i francesi non realizzarono l'unità d'Italia. I francesi però diedero all'Italia qualcosa di importantissimo per la prima volta, l'unità della legge, l'unità dell'amministrazione, nel senso che l'intera penisola è stata organizzata sulla base di un sistema amministrativo uniforme. L'intera penisola è stata organizzata sulla base di un'unica legge, al di là delle partizioni, dei confini, dei differenti potentati nei quali Napoleone e i napoleonidi divisero il nostro paese. Un problema che lei ha messo in luce è quello della continuità dei funzionari. È un problema importantissimo sul quale adesso si sta effettivamente studiando sia in Francia sia in Italia piuttosto acutamente. Si cerca di mettere in luce i ceti burocratici, in quale modo abbiano continuato a servire nel passaggio dall'antico regime alla rivoluzione, all'impero e alla restaurazione. Sono di massima posizioni soggettive, non sempre uniformi, ma c'è, perché è nato lo Stato moderno, c'è una continuità della burocrazia che è in certo senso la continuità dello Stato, che si vede nei diversi ordinamenti della penisola come ha rappresentato, per così dire, un elemento di stabilità organizzativa nel passaggio. Certo, ci sono state persone cacciate via dall'impiego, ridotti ad essere simili agli ufficiali dei Missold, per così dire, ma c'è una burocrazia, per esempio murattiana, che rimane la burocrazia del decennio napoleonico a Napoli e via dicendo. La situazione non è sempre omogenea, diciamo. Per quello che riguarda la Rive Gauche, io penso che lei abbia certamente ragione, perché le sue letture, le sue conoscenze sono molto superiori alla mia. Io chiedo scusa se dicendo che il trauma dell'annessione della Rive Gauche è stato molto forte. Io mi sono riferito essenzialmente a antiche letture che avevo fatto, Sorel, Siebel, Godchaux, Guillot, le Directoire la Paix en Europe, che mettevano in luce proprio come questo trauma dell'annessione della Rive Gauche è stato un elemento negativo nella coscienza tedesca. Oggi evidentemente... Più nella interpretazione dopo. Ecco, però già loro cominciano a mettere in luce questo elemento qui. E io quindi questo accetto la sua osservazione. Per quello che riguarda la signora Gernert, la ringrazio molto della sua osservazione sulla visione del federalismo in Italia come reazione al centralismo. Direi che più come reazione... Direi che più come reazione al centralismo napoleonico, il federalismo nasce prima dell'unificazione, nasce anche come espediente per risolvere il problema della riunione in unico Stato a base decentrata, federale, di quelli che erano potentati e stati diversi nella nostra penisola. Le radici si hanno nel 96 stesso, nel senso che al famoso concorso dell'amministrazione generale della Lombardia, quale dei governi liberi meglio convenga all'unità d'Italia, già allora si è dibattuto questo problema, ma è stato superato perché in realtà nel Risorgimento ha dominato nei gruppi più importanti la paura del perdurare del municipalismo, del perdurare del regionalismo. Si è cercato sempre di trovare soluzioni centralizzate per superare il particolarismo locale. Per quello che riguarda l'amico Frankovic ha detto una cosa che è un problema grossissimo, che è uno dei nostri problemi, mi piacerebbe che si discutesse qui. Gli italiani non conoscono il tedesco, gli italiani non leggono il tedesco nel Settecento, quindi l'influenza culturale... Vabbè, questo sì è chiarissimo, lo vediamo anche qui. Non... diciamo, e quindi l'influenza culturale, linguistica e politica è dell'Austria è più limitata. Ora purtroppo noi non abbiamo, e questo è un punto molto grave, noi non abbiamo degli studi acconci sulla penetrazione della cultura tedesca a livello politico e giuridico in Italia. Noi sappiamo soltanto che l'hegelismo è uno dei veicoli attraverso i quali si giunge alla conoscenza della grande cultura teoretica a livello politico tedesco grazie agli hegeliani di Napoli. Adesso sappiamo, e abbiamo qui la signorina Moscati che si occupa proprio di queste cose, che in Piemonte c'è un centro di radiazione culturale del germanica attraverso in certo senso la visione che si fa degli studi filologico-classici, filologico-giuridici, storico-giuridici da parte di un gruppo di studiosi che non so quanto fosse il loro grado di conoscenza del mondo italiano, ma che erano in corrispondenza col mondo tedesco negli anni 20-30, i vari Baudi di Vesme, Peyron, Sclopis, eccetera, e non so naturalmente qual è lo spessore della profondità di questo, di loro legami e di questi loro rapporti, o se sono rapporti puramente elitari. Studi simili per la Toscana anche vengono fatti attraverso certi rapporti, certe lettere che con Mittermeier, con Savigny, i vari Capponi, Capei, Conticini avranno in quell'epoca. Per il periodo precedente non sappiamo niente, però sappiamo molto poco, e questo è veramente tutto un filone di studi che si apre a noi italiani, ma si apre anche ai tedeschi, per farci sapere in realtà quali erano i rapporti culturali, i rapporti di letture. Si vendevano sti libri, si leggevano sti libri, questo era il punto. Scusa. Herr Busmann. Una ganz kurze Bemerkung. Ich wollte mich eigentlich an Herrn Weiß wenden, aber bevor die junge Kultonin hat vorhin über den Föderalismus gesprochen. Ich kann Sie nur nachdrücklich da in dieser Auffassung unterstützen. Also das ist ein Gebiet, was meiner Ansicht nach bisher noch völlig unerforscht ist. Bevor überhaupt der Bundestag nun durchpraktiziert wurde, man Gedanken sich gemacht hat, 48 über den Bundesstaat, in den 20er Jahren, in den 30er Jahren, die Leute, die später eine zentrale und Vordergrund der diplomatischen Bühne rücken, ob das der junge Josias Bunsen gewesen ist, ob das der junge Radowitz gewesen ist, der Typus ist für die Emigratio, die es damals gegeben hat, die haben die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika in einem Maße studiert, das ist also ganz erstaunlich. Also ich glaube, das ist ein Gebiet, wo es sich wirklich noch lohnt, also auch gerade die Literatur, die es hier so wenig bekannt ist, die Literatur der 20er und 30er Jahre durchzustudieren. Herr Weiß, Sie sprachen davon, ich stimme Ihnen dazu, dass das sich steigert in einem Gefühl. Ich glaube überhaupt, die französische Herrschaft, gerade im Rheinland, nicht so in der Form vorstellen, dass es also eine als die Herrschaft einer fremden Nation, die man als unerträglich empfand, war, sondern dass eher eben die, was ja hier auch schon angeklungen ist, die Begleiterscheinungen, gerade dann eben in den Jahren nach 1805, 6 mit den Folgen der Kontinentalsperre, die also gerade in dieser Gegend sehr unangenehm gewesen sind. Cioè, praticamente la Rive Gauche, cioè Magonza, Mainz, chiede lei stessa l'annessione per integrarsi come dipartimento. La Repubblica Giacobina, che non sì, la municipalità giacobina, non si arriva alla Repubblica Cisrenana. Ecco. Ultima domanda, il signor De Rosa. Sarò brevissimo anche perché in parte sono stato anticipato sia dalla domanda della signorina e sia dalla ulteriore precisazione che il professor Ghisalberti ha fornito. Mi pare però che valga comunque la pena in parte forse esplicitare quello che il professor Ghisalberti si è sempre guardato dal fare, nonostante diciamo anche la spinta polemica della sintesi molto interessante che ci ha presentato, ma credo che la sede seminariale, la struttura in cui ci troviamo ci permetta anche di far emergere quella che sotto sotto è una certa deplorazione, mi pare, da parte sua della dipendenza del ceto degli intellettuali italiani dalla cultura francese rispetto. Non c'è, non lo ha mai è una constatazione, è una constatazione. Io non ho senza amarezza, diciamo. No, senza amarezze, è freddo, giudizio freddo. Voglio dire che comunque questa dipendenza non ha sempre esiti di per sé negativi. No. Per esempio, se noi allarghiamo lo sguardo, cioè ci portiamo oltre la restaurazione, è ben noto, non serve ricordarlo, come la cultura francese sia riferimento essenziale anche per la cultura politica di opposizione italiana, non serve ricordare appunto le battaglie combattute contro Buonarroti da Mazzini per opporsi alla convinzione che ci fosse un primato francese, comunque un primo passo da compiere la Francia, la rivoluzione europea. D'altro canto, forse mi pare anche eccessivo rimandare l'assetto costituzionale italiano, addirittura attuale, o comunque quello risultato dell'unificazione, a questo accentramento di origine francese. Poi appunto gli studi di Pavone, ben noti, hanno messo in luce come ci fosse un momento di scelta e di opportunità politica e tattica da parte dei conservatori piemontesi per muoversi poi verso quel mostruoso connubio che in sostanza è rimasto, questo sì, inalterato fino ai giorni nostri. E d'altra parte gli intellettuali non sempre sono stati comunque proni in generale verso nei confronti del potere, tanto lo erano nei confronti diciamo della cultura francese, quindi anche della cultura politica che lo sosteneva, quanto poco poi lo sono stati nei confronti dell'Austria. Il primo capitolo del volume di Berengo su intellettuali dai spiega molto bene il disagio degli intellettuali milanesi e lombardi all'arrivo delle truppe austriache a Milano e come poi fallisca la vicenda della biblioteca italiana e il tentativo di politico culturale austriaco in Italia. E quindi può essere forse per capire meglio l'atteggiamento degli intellettuali italiani, può essere anche utile allargare diciamo, questo concetto dall'intellettuale che si occupa di politica e di grandi temi politici alla figura dell'intellettuale tecnico che viene rassodandosi, che viene fortificandosi proprio come ceto in questi anni. Cioè, è forse più utile per capire gli intellettuali napoleonici riferirsi a uomini come Dandolo, come Filippo Re, cioè agronomi, tecnici, idraulici e così via, che divengono secondo me in cui si esprime secondo me maggiormente lo spessore della cultura italiana ed è una cultura che si sostiene poi in sostanza, come lei stesso ha detto, anche di interessi economici e sociali in sostanza, cioè c'è una nuova classe sociale, una classe in fermento che si propone, che si forma fin dal fine del Settecento ma che poi rompe definitivamente con la rottura di vecchi equilibri politici e che trova la sua espressione culturale anche in questo ceto di intellettuali e quindi l'assenso, diciamo, l'adesione anche a modelli politici che del resto avevano poche alternative, per esempio il terrore del municipalismo che del resto durerà per tutto il primo cinquantennio è un esempio di questo tipo. D'altro canto ci sono appunto sul piano sociale, non tanto su quello politico, delle forti opposizioni antinapoleoniche, cioè vale la pena ricordare che mentre intellettuali e borghesia sono decisamente filo-napoleonici, c'è invece una posizione antinapoleonica notevolissima, quella ad esempio espressa dal brigantaggio del 1809, cioè che è in sostanza, ma che va dal Tirolo, per dirlo più, un momento forse di unificazione austro-italiana, fino alla Lombardia, al Veneto, all'Emilia e la Toscana, insomma. E quindi il momento sociale può essere assunto come discriminante. È brigantaggio, non è guerra di liberazione. Può essere assunto come discriminante, diciamo, dell'atteggiamento anche intellettuale e culturale nei confronti della gente. Sul termine di brigantaggio. Beh, il cosiddetto brigantaggio. È stato così non. Vorrei. Posso dire una parola solo? No, io la ringrazio molto delle osservazioni che lei fa, De Rosa, veramente, queste sugli intellettuali sono estremamente interessanti, sul consenso, sul problema del brigantaggio ha risposto Corsini, c'è molto da dire, non è la nostra sede questa. Lei, il problema dell'accentramento come scelta politica, ora qui dobbiamo dire una cosa sempre, tenere presente una cosa, l'ha detta Acquarone, l'ho detta io 10 volte, l'ha detta Romeo, ed è questa. Accentramento, decentramento non sono scelte che debbono essere giudicate sulla base di fatti o idee di 100 anni dopo, sono scelte che devono essere giudicate per quello che valevano in quel momento storico in cui furono fatte e in ordine alle finalità che si proponeva a coloro che facevano questa determinata scelta, primo punto. Secondo punto. Accentramento e decentramento non sono altro che un modo attraverso il quale si esercita il potere dello Stato sugli enti locali, modo che può essere di gestione diretta o di abbandono della gestione diretta, di gestione mediata sugli enti locali. Non esiste un sistema perfetto, un sistema più buono, più cattivo, mostruoso come ha detto il Pavone che lei ha ricordato, è un concetto completamente sbagliato. Perché mostruoso? Ha funzionato? Allora non è mostruoso. Ha fatto dei danni? Quali danni ha fatto? Era fattibile l'Italia in altro modo che in quello che è stato fatto? No, non era fattibile. Se non avessimo scelto un sistema centrato tra il 1859 e il 1865, questo paese non sarebbe sorto, perché austriacanti, granduchisti in Toscana, borbonici a Napoli, sanfedisti di tutte le vispe, di tutte le razze, ci avrebbero impedito di fare l'Italia. Non c'era altra scelta. E infatti il Parlamento rifiutò financo di discutere i famosi progetti Farini-Minghetti, uno non discusse per niente, l'altro lo fece cadere negli uffici, quindi così fu risolto il problema. Ma fu risolto perché la necessità storica, la necessità politica era quella. Non è il male l'accentramento, il bene il decentramento. Non c'è, questo è un concetto che non è esatto, non c'è il male in un sistema e il bene in un sistema. È la funzionalità del sistema a certi fini. Il problema è questo, che gli uomini dell'Ottocento ritenevano che la libertà politica si garantisse con un sistema rappresentativo e costituzionale, non che si dovesse garantire con sistemi sul piano amministrativo. Sono concetti amministrativi, accentramento e decentramento. Sono tecniche di governo, punto e basta. Non direi che dobbiamo considerare mostruosa realizzazione ciò che fu fatto allora e ottima realizzazione ciò che allora non fu fatto. Noi conosciamo quella, sappiamo che quella ha permesso all'Italia di vivere fino all'introduzione dell'ente regione che è avvenuto 15-20 anni fa, vissuto bene, vissuto male, questo lo vedremo, ha soffocato le autonomie locali, anche qui tutto è da dire, tutto è da vedere, perché non è neanche questo vero, perché c'è stata molte volte in molte zone d'Italia dove le singole strutture l'hanno avuto capacità di esprimere una fiorente vita locale, in altri posti che erano morte gore non c'è stata la vita locale, come oggi a 20 anni dall'introduzione dell'ente regione noi vediamo che sono regioni prospere con una fiorente vita locale e regioni che Dio ci salvi di aver creato in sostanza. Questo che dico, per cui non c'è un sistema buono in assoluto, è tutto relativo alla storia, alle circostanze ambientali. Comunque grazie delle osservazioni. Il periodo napoleonico, questo problema.